Grazie Enrico, grazie a voi per l'invito, per essere presenti così numerosi. Io rimango qua perché armeggio, vi chiedo scusa, spero che mi sentiate anche giù in fondo. Dunque, la giornata di oggi non vuole essere un'assemblea sindacale, ma vuole essere, almeno così, come dire, nelle nostre intenzioni, sia del nazionale che dei regionali, una giornata di lavoro e di confronto anche politico, di valutazione politica, ma anche di lavoro operativa e concreta, cioè per chiarire alcuni dei punti che vi impegneranno nei prossimi mesi. La Segreteria Nazionale, insieme ai segretari regionali, hanno convenuto di organizzare dei seminari, 8 in tutto, questo è il primo di oggi e ce n'è uno in contemporanea anche a Bologna e in Emilia. Perché l'ideale sarebbe girare un po' in tutte le province, ma siccome siamo pochi, i tempi sono stretti, non ce la facciamo e poi ci sono riunioni frequenti e convocazioni al Ministero che rischiano di far saltare gli impegni di alcuni di noi, abbiamo convenuto di fare questi 8 seminari. Ecco, come Segreteria Nazionale, d'intesa con i segretari regionali, avremmo convenuto di, come dire, di fare il punto con voi. Che ripeto, non siete lavoratori qualunque, eh? Per noi siete la risorsa principale, siete i nostri delegati, siete il quadro attivo, siete quelli che danno una mano al sindacato, immagino Enrico, a fare la consulenza, se non sbaglio, anche poi nelle prossime settimane. Quindi gli argomenti che avremmo convenuto sono questi, cioè fare il punto sul rinnovo del contratto, la partita della mobilità. E le novità che sono tante rispetto all'anno scorso e rispetto anche alle consuetudini, come diceva Enrico, rodate nel decennio che avevano prodotto un risultato ottimo, nel senso che funzionava tutto, il programma funzionava, i ricorsi erano quasi diventati zero. Purtroppo con la legge 107 tutto questo è stato rimesso in discussione. E l'ultima partita che rischia di, come dire, di tenere sotto scacco un po' tutto il ragionamento complessivo è l'ultimo tassello che manca ancora, è l'accordo auspicabile sul conferimento dell'incarico triennale da ambito a scuola. Allora, come vedete, gli argomenti sono corposi, sono parecchi. Se parlo solo io, rischiamo di fare un mattone, come si dice dalle parti mie. Allora io vi propongo un patto, è un po' come si fa all'inizio dell'anno quando uno ha una classe nuova, no? Se ci diamo delle regole e le rispettiamo, proviamo, come dire, a renderlo. Allora io vi propongo questo metodo. Questi argomenti li proseguiremo fino ad esaurimento, però se ci sono esigenze di chiarimento sulle cose che io dico. Facciamo già subito, però devono essere domande secche, flash e questo è il patto sull'argomento di cui io sto parlando. Non introduciamo varie o, come dire, argomenti collaterali, perché questi li lasciamo in coda, va bene? Cioè, se io sto esponendo un tema, una tesi, un argomento e c'è qualche dubbio, proviamo a chiarirlo subito, però deve essere limitato a quello. Va bene? Proviamo a fare questo patto in maniera da alleggerire un po' la pesantezza e la lunghezza anche delle cose che necessariamente dovrò dire. Quindi gli argomenti sono tre. Io la mobilità l'avrei spezzata in due parti. La prima parte sono le novità e gli elementi, diciamo, più di valutazione politica, cioè cosa cambia quest'anno rispetto all'anno scorso e rispetto agli anni passati. Poi concluderò questi tre argomenti con la partita ancora aperta del conferimento degli incarichi e lascerei, vediamo se ce la facciamo prima di pranzo, se si va al pomeriggio, una seconda parte sulla mobilità che è più tecnica, cioè come si fanno le domande, come si applicano le precedenze, cioè che sono quelle cose che dovranno padroneggiare un po' quelli che faranno le domande. Ok? Quindi la prima parte è sui concetti, mettiamola così. Quindi anche le domande vi invito a non entrare nello specifico perché lo facciamo dopo, cioè di rimanere sulle linee generali. Quindi primo tema, il contratto. Se Sapete che c'è il nuovo comparto, il contratto sarà un contratto unico, facile a dirsi, complicato sarà a farsi, perché in attuazione del famigerato decreto Brunetta e quindi della riforma del 165 del rapporto di lavoro pubblico c'era un impegno che era stato un po' l'alibi anche in questi anni di rinviare e prorogare il rinnovo del contratto, cioè quello di ridurre i comparti da 12 più 2 presidenza del consiglio eccetera vecchi. La legge stabiliva che bisognava farne 4, ridurli a 4. Con molta fatica, rinvii e palleggi vari ci si è riusciti, si è fatto l'accordo. Sapete che adesso i comparti pubblici sono 4. Uno di questi è quello che ci riguarda, che è il comparto, diciamo, dell'istruzione e della ricerca, così è stato nominato dall'accordo quadro, dove vengono a confluire scuola, università, ricerca, AFAM e anche la dirigenza che per la parte, diciamo, che ci riguarda noi, sia noi che l'università, che è diversa dalla dirigenza ministeriale. Quindi tutto il ragionamento sul prossimo contratto ci riguarderà come nuovo come dire, comparto, e quindi con tutte le difficoltà a fare un contratto che deve tenere assieme questi diversi settori. Come sapete la stagione, diciamo, questa stagione che stiamo praticando in questo momento si è aperta con un fatto, che è l'accordo fatto tra le confederazioni e il governo il 30 novembre, che riguardava appunto proprio il rinnovo dei contratti e la delega, diciamo, in mano al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministro Madia, sulla revisione del testo unico sulle regole. Il 30 novembre è stato sottoscritto quell'accordo, ma va inquadrato un po' anche nel contesto politico. Il 30 novembre, se notate, è una data precedente al referendum, perché sapete che nella campagna referendaria c'è stato un po' un cambio, come dire, di metodo, di stile anche del governo. Forse percependo un po' l'aria che tirava, c'è stata una sorta di apertura al confronto, al dialogo, anche con le parti sociali, anche con i sindacati, cosa che nei due anni precedenti in tutto l'iter della 107 di fatto non c'era mai stato. Quindi diciamo che nell'autunno ci sono state delle aperture, ci sono stati degli incontri, delle convocazioni, e alla fine si è approdato a questo accordo del 30 novembre, che a noi ci riguarda molto da vicino, anche perché noi contemporaneamente, tutto questo avveniva al Ministero della Funzione Pubblica, tra le confederazioni, prima CGL, CISL, UIL, e poi si è aggiunto all'Atere anche la CONSAL, che per quanto riguarda la scuola a cui appartiene lo SNALS. Quindi diciamo tutti i sindacati rappresentativi hanno aderito a questo accordo del 30 novembre. Ci riguarda perché? Perché noi parallelamente a questi tavoli avevamo iniziato la mobilità, di solito si comincia a parlarne a novembre, non mi ricordo la data precisa, ma intorno al 7-10 novembre abbiamo iniziato la discussione sul rinnovo del contratto. Ed è una discussione che dopo 2-3 incontri in cui noi chiedevamo all'amministrazione, abbiamo posto dei nodi chiedendo all'amministrazione delle risposte, che era per noi la condizione per poter avviare la discussione sulla mobilità. E per un mese non abbiamo avuto nessuna risposta, tant'è vero che questo avvio di confronto si è poi di fatto interrotto. Perché sostanzialmente si è interrotto? Perché ovviamente per noi, per tutti i sindacati, era inaccettabile subire il vincolo della 107 rispetto al nuovo contratto sulla mobilità. Per l'amministrazione, ovvero per il livello dell'amministrazione che tratta con noi, che è sostanzialmente il capo dipartimento e il direttore del personale, che sono, diciamo, i massimi livelli dal punto di vista amministrativo e di governo del Ministero, ma non è il livello politico del Ministero, e ovviamente loro non erano in grado di darci delle risposte, quindi, come dire, la trattativa si è di fatto interrotta dopo il terzo incontro. Siamo tra il 10 e il 20 novembre, ci siamo fermati. Nel frattempo c'era questa discussione, e questa discussione per un verso ci ha, come dire, aiutato a riprenderla questa discussione, perché i contenuti dell'accordo, diciamo, andavano nella direzione delle richieste che noi facevamo. la dico in sintesi, superare alcuni vincoli della legge con il contratto, cosa impossibile. Io, per darvi una norma su tutte, qual era il problema che noi avevamo? Noi avevamo il problema che riassume un po' i vari aspetti del problema, è il comma 196 della legge 107, che ve la leggo, sono due righe ma molto pesanti, perché il comma 196 di una legge dello Stato dice: sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi. La mobilità è un contratto integrativo ma collettivo nazionale, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge. Quindi capite che di fronte a questa affermazione è chiaro che il livello amministrativo dell'amministrazione dice: noi siamo funzionari, dirigenti dello Stato, per noi la legge è questa. E quindi si era creata una sorta, come dire, di non possibilità di andare avanti e di incomunicabilità. Ecco, questo accordo ci ha consentito, ci è voluto un mese, perché nel frattempo, dopo il 30 novembre, era successo anche qualcos'altro, il referendum, il cambio di Presidente del Consiglio, addirittura cambiato il Ministro, cambiato il Capo di Gabinetto. Quindi noi avevamo fatto dopo il 30 novembre un primo incontro con il Capo di Gabinetto del Ministro precedente e poi subito dopo con il Capo di Gabinetto nuovo, quello attuale, per cercare di capire se c'erano le condizioni per continuare la trattativa o meno. C'erano già state delle aperture, in particolare con il cambio del Ministro queste aperture sono aumentate, ma sono aumentate fino a un certo punto. Perché sono aumentate fino a un certo punto? Perché l'atteggiamento iniziale è stato di massima apertura, perché era chiaro anche politicamente che c'era una volontà, come dire, visto l'esito, di recuperare, perché è chiaro che la 107 è una delle ragioni della sconfitta a referendum, perché è inutile che ce la raccontiamo. Molti hanno votato sul merito, ma molti hanno votato anche pro o contro un metodo, diciamo, no? Un modo di governare. Quindi la 107, la scuola, è stato uno dei fattori, insieme a Job Act e la riforma dei diritti del lavoro, sono stati i due perni che probabilmente hanno determinato un cambio di rapporto tra il partito di maggioranza, la Presidenza del Consiglio e i vari ministeri con una parte del mondo del lavoro, e quindi c'era la volontà di ricucire. Ultimamente devo dire che questa volontà un po' si è un po' raffreddata, perché il Ministro, penso che lo possiate capire tutti, si trova un po' tra l'incudine e il martello, no? Perché capite che modificare Brunetta non è difficile, brutto e cattivo, governo Berlusconi, ma far modificare al governo attuale, al ministro attuale, una legge su cui loro ci si sono giocati la faccia, e farla modificare o bypassare allo stesso governo che ha approvato quella legge, beh, la partita non è facile. Come capite benissimo che dentro, diciamo, la maggioranza di governo ci sono due tesi. Quelli che vogliono recuperare, che però adesso c'è un piccolo problema, gran parte di questi sono usciti, e quelli che invece vogliono difendere la bontà del lavoro fatto, eccetera, eccetera. E capite altrettanto bene che rispetto all'apertura iniziale anche del Ministro Fedeli, questi elementi oggi pesano, perché lei si trova un po' tra l'incudine e il martello, tra chi la sostiene e chi invece, banalizzo, guai se, o cose del genere. Come sapete bene che ci sono campagne dal Corriere della Sera, di alcuni note penne giornalistiche, che criticano il governo perché appunto si sta rimangiando le cose positive che stavano nel 107. Il bonus è una di queste, la chiamata diretta è una di queste, maggiore potere ai dirigenti è uno di questi temi, l'ANP potete immaginare come è in campo e imbestialita rispetto ad alcuni esiti che si stanno prefigurando. Insomma, tutta una serie di contesti che rendono intanto la partita non ancora chiusa, ma come dire, complicata. È chiusa sul versante della preintesa sulla mobilità, ma il quadro complessivo, come sapete, è ancora aperto. Ma andiamo un po' al merito. L'accordo del 30 sostanzialmente verteva su due temi. Uno, vabbè, sono le condizioni minime per, dignitose per poter rinnovare il contratto, la famosa 85 euro medi, la non perdita degli 80 euro per chi l'ha avuti a causa del contratto, perché sappiamo che una grossa fetta dei nostri lavoratori, se prendono 50, 40, 60, 80 euro di aumento contrattuale, rischiano di perderne 80, quindi alla fine il bilancio sarebbe meno piuttosto che più uno, e quindi all'interno c'è anche questo tema, ma c'è anche l'altro problemino, che i soldi non ci stanno. Cioè, nonostante 85 euro tutti noi, inutile adesso, non abbiamo questa discussione perché avremo mesi davanti per parlarne, ma non è che facciamo salti di gioia di fronte a queste prospettive, però dovete anche sapere che la metà di questi soldi non ci stanno. Cioè, nell'accordo del 30 e nelle due finanziarie dell'anno scorso e di quest'anno ce ne sono sì e no la metà, una quarantina di euro medi per il rinnovo dei contratti, tutti i contratti pubblici. Quello che manca nell'accordo del 30 si dice che verrà finanziato con la finanziaria del 2018, perché il contratto prevede periodo di copertura 2016-2018. Quindi questo è un filone di problemi, e quell'accordo, come dire, ha fatto un patto. E contrariamente a come è stato venduto da qualche giornale, questa è un'intesa politica, si chiama, è un accordo. Un accordo funziona se le parti che lo firmano sono dei galantuomini, nel senso che mantengono la parola e lo rispettano. Ma queste intese non è che sono esigibili davanti al giudice, non è un contratto, Sono delle intese che creano le condizioni, per poter... io dico sempre che il rinnovo dei contratti è un po' come una partita di calcio, c'è un primo tempo e un secondo tempo. Ecco, l'accordo del 30 è il primo tempo, cioè condividere le condizioni minime per poter trattare. E poi la partita vera e propria, cioè il contratto vero e proprio, si fa nel secondo tempo, cioè si fa prendendo i tavoli all'Aran e discutendo. Con un piccolo particolare però, che l'esito finale dipende dal primo tempo, dal risultato. Non è come il calcio, che se gioco male il primo tempo e bene il secondo rovescio il risultato, per usare questa metafora. Nei contratti non funziona così, perché se non ci sono le risorse, non è che le tira fuori l'ARA le risorse. Questo, quindi noi, come dire, l'accordo del 30 è un po' come aver concluso il primo tempo della partita. Il secondo è tutto da giocare, ma anche dentro il primo tempo ci sono degli impegni che non sono certi. Se la finanziaria del 2018 quale sarà? Sarà questo governo a farla, che è in continuità con chi ha firmato l'accordo del 30? Si va a votare prima e quindi non sappiamo cosa succede, cioè ci sono gli impegni per poter avviare la discussione, ma l'esito è tutt'altro che scontato. Quello che ci interessa invece, sia per il rinnovo del contratto, ma soprattutto sulla mobilità, è il primo pallino che trovate lì, e cioè sapete che la Madia ha avuto la delega, il ministro della funzione pubblica, da una legge dello Stato ha avuto la delega a rivedere il testo unico, che non è una legge, ma appunto è un testo unico che raccoglie le norme esistenti. E nel rivedere il testo unico, l'impegno sottoscritto nel 30 è a fare che cosa sostanzialmente? Che è quello che noi chiediamo dal 2008 ad oggi, cioè ripristinare un quadro di regole e dare a Cesare quello che è di Cesare, cioè dare al contratto... Se la norma di legge, se per legge stabiliamo che il contratto si occupa di A, B, C e D, e su A, B, C e D deve essere sovrano, deve essere la norma primaria, anche rispetto alla legge. E sapete invece che col decreto Brunetta, la modifica del 150 fatta sul 165, che è il vecchio, che è la riforma storica del pubblico impiego, Brunetta aveva detto: il contratto si occupa di una serie di materie, però se interviene la legge, il contratto deve sottostare al dictato della legge e non lo può modificare. Questo è il primo punto che bisogna cambiare, ed è quello che ci interessa a noi, perché abbiamo il comma 196 che ci dice che rispetto ad alcuni paletti fissati dalla 107, noi col contratto li possiamo cambiare, ma se rovesciamo quel ragionamento, cioè se diamo al contratto la potestà di poter derogare o modificare rispetto a vincoli di legge. Chiaro ragionamento. Quindi tutta la partita della mobilità sta diventando una sorta di sperimentazione prima della legge. Perché il governo, la Madia, ha presentato, perché la delega scadeva entro febbraio, il testo, questo testo non ci soddisfa appieno, però alcuni passi avanti ci sono. Quella famosa legge che dice che la legge prevale sul contratto e il contratto non può modificare è stata aggiustata, ma ci sono altre parti che non vanno bene. Quindi è stato presentato, ci sono 90 giorni di tempo prima che quel testo diventi legge vera e propria, perché l'iter prevede il passaggio delle commissioni parlamentari, quindi c'è ancora una discussione aperta, ci deve essere il parere del Parlamento e poi ci deve essere il parere del Consiglio di Stato e alla fine diventa legge. Quindi 3 mesi, fine febbraio, significa che andiamo tra maggio, fine maggio e giugno, primi di giugno. Però noi con la mobilità non possiamo aspettare maggio e giugno, capite qual è anche la difficoltà dal punto di vista anche normativo, Noi la mobilità l'abbiamo chiusa prima perché non possiamo aspettare giugno, cioè la modifica del testo unico, per poter avere il timbro di legittimità sul contratto. E questo è uno dei temi che sta in questo momento in discussione, dove al MEF e Funzione Pubblica, che come sapete tutti sono quei soggetti che in base alla legge devono dare il nulla osta per la sottoscrizione definitiva del contratto, perché noi abbiamo firmato la preintesa, ma il contratto diventa vero contratto esigibile davanti ai giudici solo se si arriva alla firma definitiva e se c'è l'autorizzazione. Quindi c'è questa situazione, come dire, complicata, e questo è uno dei corni del problema. L'altro è che noi insieme al Ministero abbiamo fatto il patto alla fine di dicembre sulle cose da modificare rispetto alla legge, che dice che gli accordi sono due, non è uno solo, cioè quello sulla mobilità e quello che deve regolare diciamo le procedure e le modalità per il conferimento degli incarichi dall'ambito a scuola. Gli ambiti a me non si possono toccare, l'ha previsto una legge, non è che il contratto della mobilità si occupa della mobilità, si può occupare, non si può occupare di cose che non stanno. Il bonus, tanto per fare un esempio, se ci metteremo le mani, e ce le vogliamo mettere sicuramente, lo faremo col contratto nazionale di lavoro, non lo possiamo fare con il contratto della mobilità. E come gli ambiti ci sono, e come in passato c'erano i distretti scolastici, che adesso di fatto ci sono sulla carta ma non hanno più alcun senso. Gli ambiti ci sono perché l'ha introdotto una legge. Noi non possiamo, è come dire le province, non è che possiamo togliere col contratto della mobilità, quindi gli ambiti ci sono. E a differenza dei distretti che non comportavano la titolarità, gli ambiti comportano la titolarità delle persone, di chi ci va o perché è costretto in applicazione della 107 o a domanda perché gli conviene, ma ci sono i titolari. E quindi il tema di come dall'ambito si va a lavorare con un incarico triennale nelle scuole è un tema che non possiamo eludere né abrogare, come sostengono noi i demagoghi di cui è pieno questo paese, dalla Gilda ai Cobas e tanti altri, che dicono il contratto non va bene perché non ha abolito gli ambiti. Come dire, no, non possiamo fare quello che non ci è consentito. Mentre abbiamo fatto il patto su come si deve andare, cioè sul regolare come. Quindi c'è l'intenzione e la disponibilità a regolare questa partita, ma poi trovare l'accordo sul come è tutta una cosa ancora, ma sul dettaglio ci arriveremo fra un po'. Quindi, riassumendo, occorre sia per rinnovare il contratto nazionale di lavoro, sia per ratificare il contratto della mobilità, superare con la revisione del testo unico alcune delle norme Brunetta, che e abrogare implicitamente anche il comma 196 della 107. Come si fa a abrogare questo? Basta ripristinare la regola che dice: la mobilità è materia regolata dal contratto? Sì, ma anche prima lo era. È intervenuta la legge. Può il contratto normare anche disapplicando o in difformità dalla legge? Brunetta diceva di no. Il comma 196 dice di no. Noi dobbiamo fare una modifica che dice invece che, siccome non è che lo decidiamo noi, il contratto si fa in due, quindi c'è anche la parte che sosteneva quelle tesi, se si trova un accordo, questa è la norma, diciamo, diventa l'ultimo atto di norma primaria che regola la mobilità. Questo è il passaggio che ci interessa, ma soprattutto anche per tutte le vicende dell'RSU, contrattazione scuola, noi abbiamo bisogno di ripristinare un quadro di regole certe. tutti i contenziosi di questi anni devono finire, insomma. Quindi, ma questo sarà il tema, come dire, della piattaforma, del rinnovo del prossimo contratto, perché è lì, alla luce della revisione più o meno buona o più o meno soddisfacente del testo unico, che noi dovremmo ridefinire un quadro di regole. Quindi questo è... se tutto questo va in porto in maniera soddisfacente, poi ci sarà tutto il tema che ci impegnerà, diciamo, nei prossimi mesi, del rinnovo del contratto. Quindi bisognerà fare un contratto unico. L'accordo quadro prevede che ci siano anche delle parti specifiche, perché non tutto sarà unificabile, come già nel contratto scuola l'orario di lavoro degli ATA, per dire, non è uguale all'orario di lavoro dei docenti. È evidente che anche l'orario di lavoro all'università o negli enti di ricerca avrà le sue specificità rispetto a quello della scuola, quindi delle parti sicuramente, e lo prevede l'accordo quadro, che anche se il contratto sarà unico, ci saranno delle sezioni specifiche che distinguono come dire, appunto le specificità, bisticcio di parole, di ciascun settore. Ma molte parti dovranno essere comuni, immagino tutti i diritti fondamentali, dalle ferie, permessi, aspettative, il part time, ma anche in parte le relazioni sindacali, alcune magari saranno specifiche, ma alcune anche comuni, e quindi ci sarà da fare questo tipo di lavoro. Quindi unificare le parti che sarà possibile unificare, e per differenza mantenere nelle sezioni specifiche quello che è specifico. Sui tempi, sto parlando sempre del rinnovo del contratto nazionale, poi entriamo nel merito della mobilità. La validità sarà 2016-2018, perché è questo il periodo in cui non c'è più, diciamo che fino all'anno precedente c'era il blocco, no? Prima 3 anni di Tremonti, poi l'altro anno di Monti, quindi il periodo sarà 2016-2018. Stiamo già a metà di questo periodo, quindi dobbiamo, come dire, fare in fretta. Sappiamo già che una metà dei soldi di questi famosi 85 euro ci sono e sono spendibili, e l'altro invece no, quindi ci sarà, come dire, da far quadrare un po' il tutto. I temi sono tanti, quelli che dovremmo rivedere, no? Quindi adesso stiamo lavorando per predisporre una piattaforma, sarà complicato e difficile, io non ci credo che ci riusciremo a farla unitaria, però un giro di assemblee per discutere di questi argomenti lo dovremmo fare, quindi anche nelle riunioni, che ne so, che si organizzano a livello territoriale con l'RSU, tutte le occasioni sono buone per ragionare su questi temi. Qui ho evidenziato, non li elenco, ma sono i vari capitoli, insomma. Quelli che ci interessano in modo particolare è ridefinire il quadro sulle relazioni sindacali e diritti sindacali. Orari, permessi, c'è da aggiustare, forse grandi novità, se non equiparare i diritti del tempo determinato, che sono ancora un po' figli di un dio minore rispetto a quelli a tempo indeterminato. C'è tutto il tema complicato dell'orario di lavoro, degli obblighi di servizio, c'è tutto il tema della valorizzazione professionale, valutazione dintorni, e qui ricondurre anche la questione del bonus all'interno del contratto. Insomma, sono tutti i temi che ci impegneranno nei prossimi mesi. Per quello che ci riguarda, come dire, ci sono degli obiettivi da... Noi abbiamo chiamato parole chiave. È chiaro che nel rifare il contratto il primo obiettivo è che non deve essere possibile nessun arretramento, e però ci sono delle differenze, ci sono dei comparti che hanno qualcosa in più rispetto ad altri. Non arretrare significa possibilmente portare tutti, chi sta in basso, a livello alto, ma sappiamo anche che non sarà facile. Uno, due, queste cose non sono gratis di solito, perché equiparare dei diritti, permessi e quant'altro, hanno un costo, queste robe qui, non è che... Quindi già gli 85 euro sono pochi, se poi dobbiamo spenderli per equiparare qualche diritto piuttosto che metterli tutti nel tabellare, capite che le sofferenze cominciano a venire fuori, ma questo sarà il tema, come dire, che dovremmo... Quindi trovare un giusto equilibrio, per esempio, tra il recupero salariale, che è quello che tutti si aspettano, giustamente, ma anche una forma di riconoscimento della professionalità, che è cosa diversa dalla valutazione introdotta dalla legge 107. Ma anche qui c'è un problema di risorse, perché va bene recuperare e unificare e ricondurre dentro il contratto tutte quelle che ci sono, ma forse non sono abbastanza. Ma già riuscire a portare le risorse della 107 dentro il contratto, regolarle con il contratto piuttosto che regolate dalla legge, mi riferisco in questo caso, che ne so, al bonus sulla formazione, alla carta, mi riferisco al bonus premiale, che sono risorse di legge fuori dal contratto. Tutte queste probabilmente dovremmo, uno degli obiettivi sarà portarli dentro il contratto e ragionare, oltre al recupero salariale, anche di come utilizzare queste risorse. Sapete che qui con Brunetta c'era un piccolo problemino, perché non ci riguardava come scuola, ma altri settori che organizziamo in questi anni li ha riguardati, e come, che era famoso per esempio le quote, no? 25-50, che pare che nella revisione del testo unico queste qui siano una delle poche cose sicure che saltano, però c'è tutto un ragionamento complicato da fare, quindi noi dobbiamo accelerare su questo. È chiaro che abbiamo già chiesto l'avvio, intanto l'emanazione dell'atto di indirizzo, che è il punto di partenza per sedersi intorno a un tavolo, che sapete che le trattative si fanno con l'ARAN, ma l'ARAN è un'agenzia che opera per conto del governo, quindi deve avere un mandato, no? Si chiama in gergo atto di indirizzo, che ancora non c'è, quindi lo stiamo sollecitando, stiamo chiedendo di avviare intanto dei tavoli, perché ragionare anche sulla parte normativa non è facile. È evidente però che quantomeno il rinnovo del CCNL, così come lo vorremmo noi, è legato anche alla modifica del testo unico, quindi alla conclusione dell'iter sulla revisione della delega Madia, perché anche lì ci sono in ballo, come dire, alcune cose che noi chiediamo. Questo sarà uno dei temi che discuteremo venerdì con l'Assemblea Nazionale dei Delegati dei Quadri, dove ci sarà anche il segretario generale Camusso, perché è uno dei temi, diciamo, al centro dell'attualità. Vogliamo il rinnovo del contratto e il ripristino di una serie di regole. Sui tempi credo che vi avevo già detto. Sui nostri impegni, noi stiamo pressando continuamente il governo, perché vorremmo, come dire, ragionare quantomeno con lo stesso governo che ha firmato quel patto, perché altrimenti significa che ogni volta che si cambia ci vogliono mesi prima di ripartire. Dopodiché, quando si riparte, non è detto che siamo in sintonia, perché ripeto, i patti funzionano se chi li stipula li rispetta, ma se uno dei due soggetti non c'è più diventa tutto più complicato. Quindi noi vorremmo entro diciamo prima dell'estate che il lavoro sia più avanti possibile, e nel frattempo presidiare l'iter della riforma del testo unico. Sapete che questo è l'altro argomento della riunione dell'Assemblea Nazionale, ci sono anche i referendum della CGIL che dovremmo sostenere anche in categoria. Ho già detto, stiamo lavorando e bisogna arrivare a un testo di piattaforma, perché dobbiamo tutti voi essere impegnati nelle scuole con i lavoratori a parlare di questi argomenti, perché se non monta anche dal basso l'esigenza del rinnovo del contratto, non è che basta dirlo perché come dire, la cosa si realizzi. Ultimo piccolo problemino che vorrei che non dimenticassimo mai: a marzo si vota, salvo norme di legge ad oggi non prevedibili, si vota per il rinnovo dell'RSU, oltre che per le politiche a scadenza naturale a fine. Bisogna cominciare a pensarci, perché l'RSU non è che si improvvisano 20 giorni un mese prima, quindi tutte le occasioni sono buone per come dire, organizzare discussioni per affermare i nostri obiettivi, il nostro impegno, eccetera, eccetera, ma anche più banalmente per ragionare sulla formazione delle liste, su chi è disponibile, e riavvivare un po' di interesse che credo che sia naturale che in questi anni si sia un po' assopito, anche perché appunto con tutte le leggi che sono intervenute, come dire, l'azione sindacale, la contrattazione, i rapporti entro le scuole si sono un po' indeboliti, per usare un eufemismo. Passiamo alla mobilità. Come sapete, la situazione si è sbloccata e il contratto, la discussione è ripresa dopo l'accordo che abbiamo fatto con il nuovo ministro il 29 dicembre. Quell'accordo, è una paginetta e mezza che immagino tutti avrete avuto modo di leggere, aveva convenuto, come dire, alcuni obiettivi. Il primo, svincolo dell'obbligo triennale. Anche questa è una modifica di legge, eh? Non c'entra niente la 107, perché la 107, ricordo che l'anno scorso in via eccezionale il comma 108 che prevedeva una mobilità straordinaria su tutti i posti e su tutta Italia l'aveva tolto il blocco, ma l'aveva tolto per l'anno scorso. Poi c'è una legge precedente che è del ministro Carrozza che aveva ridotto da 5 a 3 anni il vincolo che era di Gelmini, ministro precedente, che aveva portato a 5 il blocco, ma il blocco di 3 anni c'è, che è la legge, una legge del 2014. Siccome il nostro obiettivo era dare a tutti l'opportunità di rifare la mobilità e in particolare tutti i neoassunti dell'anno scorso, perché quelli che hanno subito l'incapacità del governo di applicare correttamente il contratto dello scorso anno, famoso algoritmo sbagliato, le migliaia di errori che ci sono stati, non era pensabile che non avessero, a parte l'esito degli eventuali ricorsi per chi ha deciso di andare avanti per la via giudiziaria, non era pensabile non ridare l'opportunità con la mobilità di quest'anno di poter migliorare la situazione sbagliata avuta come effetto della mobilità dell'anno scorso. Quindi era uno dei punti che noi chiedevamo di superare. L'altro è la possibilità di fare la mobilità su scuola oltre che su ambito. Questo è stato il punto più complicato, perché ricordo, chi non lo ricordasse, che il comma 73 della legge 107 dice che chi ha la titolarità di scuola la mantiene, ma chi perde posto o si vuole spostare può andare solo su ambito. Ecco, per noi questo era uno dei punti inaccettabili. È chiaro che si è dovuto trovare un punto di equilibrio. Non era possibile dire no, la mobilità è come 2 anni fa, perché gli ambiti ci sono, la titolarità c'è, non potevamo, e quindi era chiaro che un punto di mediazione bisognava trovarlo. L'abbiamo trovato nel semplificare le procedure, e qui apro e chiudo una piccola parentesi. In questo incontro politico l'amministrazione ci ha sfidato della serie, per noi vogliamo semplificare tutto al massimo. Beh, noi non è che gli abbiamo potuto dire non vogliamo semplificare rispetto alle 8 fasi dell'anno scorso, alle 2 mobilità distinte e tutto il caos che c'era stato. Quindi la sfida della semplificazione l'abbiamo dovuta accettare. E il risultato qual è stato? Che poi ci ha complicato a morte la vita nello scrivere il testo del contratto. L'eliminazione, per esempio, della fase comunale. Quindi a ridurre 8 fasi dell'anno scorso in 2 mobilità distinte a 2. La mobilità provinciale e interprovinciale, con il superamento addirittura di quella comunale. Poi gli ambiti ci sono, abbiamo eliminato di fatto comuni e distretti che non hanno più senso. Il nostro obiettivo era dare a tutti la possibilità di far domanda, sia ai nuovi che a quelli nominati l'anno scorso, dare la possibilità sia a quelli che hanno la titolarità di scuola, ma anche a quelli che hanno la titolarità su ambito, di potersi muovere e di poter avere l'opportunità sia di avere il massimo delle possibilità. Uno che deve andare dalla Lombardia alla Sicilia, gli interessa poco in questo momento avere una scuola, gli interessa andare dalla Lombardia alla Sicilia, e allora senza limiti, ognuno può chiedere quello che vuole. E però se si semplifica bisogna trovare un punto di mediazione. Una delle semplificazioni è 15 preferenze, eliminazione della fase comunale, il distretto non serve più perché ci sono gli ambiti. Abbiamo detto no all'organico regionale, perché tenete presente che una delle novità della 107 era che si diventava titolari sulla regione, non più sulla provincia. Questo per ora siamo riusciti a non farlo passare, quindi la titolarità rimane provinciale, rimane sull'ambito, e poi c'è chi è titolare di scuola e chi ha l'incarico triennale su scuola. Mettere assieme un equilibrio di queste due non è stato facile, perché l'amministrazione inizialmente era contraria alla possibilità delle scuole, poi per fino all'ultimo minuto ne proponeva massimo 3, siamo riusciti a portare a casa 5 scuole dentro le 15 preferenze, ma senza limiti però, perché in passato ricordo che solo alle superiori c'era la possibilità di mettere più province, in tutti gli altri gradi di scuola facevi la mobilità sulla tua provincia e su un'altra. Mentre qui ognuno è libero di indicare quello che vuole nel limite, ripeto, delle 15. Quindi i limiti sono 15 preferenze a libertà di scelta del docente che fa domanda, massimo 5 scuole. Poi l'altro accordo è stato sulle aliquote, complicato da ragionare, perché l'anno scorso sapete tutti quello che è successo. Cioè quella novità che sembravano, no, di aver fatto i generosi, noi siamo altro che i sindacati che mettono i limiti, mobilità su tutta Italia, su tutti i posti, è stato un bel risultato alla fine, perché al sud i posti sono stati occupati tutti, al nord no. Il risultato è che quelli messi in ruolo quest'anno, i posti erano trovati tutto al nord e al sud non ce n'era più uno. E quindi c'è stato, come dire, un effetto negativo di trascinamento sull'assunzione dell'anno dopo. Cosa che in passato un equilibrio c'era. Poi non c'è mai nessuno contento perché a seconda degli interessi personali c'è chi spinge più di qua o di là. Nella mobilità purtroppo è sempre così. Qualunque cosa si tocca c'è chi ne ha un beneficio o chi no. Quindi ne usciamo solo rispettando, diciamo, dei diritti e dei principi. Però il 50% garantiva una mobilità accettabile storicamente, ma garantiva anche che in ogni provincia ci fosse una quota di posti destinata alla missione di ruolo. L'averla eliminata l'anno scorso ha creato quelle conseguenze negative che sono state scoperte un po' in ritardo dai lavoratori. Quest'anno bisognava in qualche modo recuperare. Quindi il 60% è un tentativo di un po' attenuare e recuperare gli effetti della mobilità dell'anno scorso. Sappiate che almeno noi avremmo intenzione l'anno prossimo di ripristinare l'equilibrio storico, cioè lavorare su 50 e 50, eccetera. Quindi noi volevamo recuperare un po' di mancate immissioni, diciamo al sud, così ci capiamo, accantonando un po' più, anche perché sapete che nella finanziaria ci saranno altri 20, 25, 24, il Tesoro ancora non ha licenziato il numero perché la legge finanziaria ha stabilito le risorse, ma non c'è scritto quanti posti in più ci saranno per l'assunzione dell'anno prossimo. Quindi trasformare le risorse in finanziaria e il numero di posti è sempre una faccenda di lana caprina e di discussione tra MIUR e MEF. Comunque ci saranno più posti per le missioni in ruolo e quindi più opportunità sia per trasferirsi che anche per essere assunti. Noi volevamo, insomma, recuperare un po' di posti per le assunzioni, ma non penalizzare la mobilità. Il risultato finale qual è? Che siccome la torta è 100, è chiaro che se dai un po' di più a qualcuno, un po' di più a qualcun altro, c'è un terzo che... Per un anno abbiamo detto pazienza, la mobilità professionale avrà meno chance rispetto a quelle che storicamente ha avuto. Questo è il ragionamento che politicamente abbiamo convenuto e deciso di. Per cui il risultato finale qual è nella questione dell'aliquota? Che per le assunzioni c'è un 10% in più rispetto all'aliquota storica, che si trascina anche tutti i dispari, perché il 60% fa 0,6, quindi automaticamente c'è un arrotondamento a favore delle missioni di ruolo. La mobilità, che storicamente era la metà del 50%, quindi su 100 posti alla mobilità dall'altra provincia andava il 25%. L'abbiamo innalzato un po' portandolo al 30%, in maniera da dare un po' più opportunità a tutti gli errori dell'anno scorso di poter... Ci sono un po' di posti in più rispetto al 25% storico, l'abbiamo innalzato un po' e quindi... Questo dovrebbe agevolare un qualche trasferimento interprovinciale in più. E il risultato però è stato che per l'anno prossimo rimane sacrificata la mobilità volontaria. L'altro punto era la revisione delle tabelle di valutazione, perché sapete che noi come FLC sono anni che lo chiediamo. Su questo tema solo la Gilda ci è sempre venuta dietro. La UIL che aveva paura a esprimersi, lo SNAZ, la CIS dell'amministrazione sempre contraria, della serie è meglio non toccare niente. Perché qualunque cosa si tocca, quest'anno abbiamo detto ci sono tante sentenze, non possiamo continuare, e però anche qui un punto di mediazione l'abbiamo dovuto trovare, perché l'ostilità a cambiare qualcosa da parte dello SNAZ e della CISL in particolare, ma anche della vecchia burocrazia ministeriale, c'è, Le graduatorie interne, meglio non dar fastidio alle persone, ormai sono consolidate, qualunque cosa tocchi rischi che chi era contento l'anno scorso si ritrova ultimo e quindi... Tutti se la prendono con noi, ma è inevitabile, qualunque cosa si tocca c'è sempre un effetto. Morale della favola, non la faccio lunga, qual è l'equilibrio, la mediazione che abbiamo convenuto anche per tenere il tavolo unitario sul fronte sindacale? È di equiparare il servizio, perché un anno di servizio, qui non stiamo parlando di carriera professionale o di concorsi, Stiamo parlando di andare vicino a casa e ricongiungersi alla famiglia. È un anno di sacrificio, un anno di lavoro, un anno di lavoro. Non mi interessa se l'ho fatto come supplente annuale, se l'ho fatto in un grado di scuola rispetto all'altro grado di scuola. Rispetto al diritto a stare con la famiglia, un anno è un anno, punto. Quindi deve valere allo stesso modo. La mediazione è stata che l'abbiamo introdotto, ma solo nella mobilità a domanda, per dare un contentino agli altri. Poi l'anno prossimo noi abbiamo intenzione di portarla fino in fondo, perché ripeto, tutte le sentenze giudicano inaccettabile la discriminazione nella valutazione d'età. Però le sentenze l'hanno detto ai fini della ricostruzione di carriera. Di sentenze sulla mobilità non ce ne sono granché, è ai fini della ricostruzione di carriera che ci sono sentenze anche di secondo grado che dicono tutte, che è anche pronunciamenti dell'Europa che dicono che non bisogna discriminare, ma lo dicono dal punto di vista del salario, dal punto di vista dell'inquadramento e della ricostruzione di carriera. Noi vogliamo che portarlo anche qua. Ripeto, la mediazione quest'anno per tenere il fronte è stata nella mobilità volontaria. Ultimo punto importante è, allora, 5 scuole, ok, però abbiamo detto, ma se uno perde posto e lo perde da scuola, non rompete le scatole, deve avere diritto ad avere un'altra scuola. E nel contratto questo siamo riusciti a portarlo a casa, cioè chi perde posto, sia a domanda, la domanda la fa come tutti gli altri, perché? Perché non potevamo creare due modelli diversi, altrimenti ritornavamo sul tema complicazione delle domande, possibilità di errori. Quindi la domanda volontaria la fa, tutti la fanno allo stesso modo, un'unica domanda, 15 righe, 15 preferenze per tutti. Con la differenza però che il perdente posto che non è soddisfatto nella domanda volontaria, d'ufficio deve andare su scuola. Ovviamente se i posti non ci sono, perché se non ci sono anche lui diventa soprannumerario e in quel caso l'esubero viene appoggiato. Una volta era l'ex DOP, no? Era appoggiato sulla provincia, adesso sarà appoggiato su un ambito a partire da quello della prima preferenza che lui ha indicato nella domanda volontaria. Quindi anche questo come dire, è un risultato che noi crediamo positivo. Quindi le deroghe rispetto alla legge, come vedete nel contratto sulla mobilità e nell'apprendista, sono state molte. Per giustificarle, perché il terrore che ha il Ministero è che magari con noi alla fine è arrivato a convenire alcune cose, ha il terrore che quando arriva al MEF, quando arriva alla funzione pubblica, gli dicano non si può fare. Allora noi proprio, se andate a rivedere l'articolo 1,1 del contratto, citiamo l'accordo del 30. Siccome la mobilità, per dirla in sintesi, siccome noi non possiamo aspettare l'applicazione fino in fondo di quell'accordo con la modifica del testo unico, perché la mobilità ha tempi diversi, bisogna entro marzo, aprile massimo bisogna fare le domande, la legge non ci sarà quella data perché l'iter prevede, se va bene, maggio-giugno, che si fa? Allora, lì si dice che tutto l'accordo sulla mobilità sostanzialmente è in sintonia con quell'intesa, cioè applica per alcune parti, anche se significative, quell'intesa lì. Il vincolo triennale non c'è, quindi tutti i docenti, compresi quelli assunti sia nel 15 che nel 16, il 15 sono quelli che hanno subito, diciamo, i danni degli errori dell'amministrazione, potranno fare domanda in deroga al vincolo triennale. La titolarità su scuola, tutti i docenti, compresi gli attuali titolari su ambito, potranno presentare la domanda e avere le stesse opportunità degli altri. Potranno diventare titolari su scuola se riescono nel trasferimento o passaggio, perché le regole sono le stesse, 15 preferenze massimo all'interno delle 15 fino a 5 scuole, potranno essere soddisfatti e ottenere una titolarità su scuola. E questa opportunità l'abbiamo data a tutti, quindi ci siamo rifiutati di classificare i docenti in due categorie, quelli prima della legge 107 a cui garantiamo un po' come è stato fatto l'anno scorso. Se ricordate, l'anno scorso la mediazione qual è stata? La domanda si fanno su ambito, però chi proviene da una scuola, se viene soddisfatto sul primo ambito, si prende la titolarità di scuola. Fu la mediazione dell'anno scorso. È chiaro che però questo diritto di potersi spostare, soprattutto nella mobilità interprovinciale, e andare su scuola, non potevamo riconoscere ad alcuni e ad altri no, perché per noi questa classificazione in due fattispecie di docenti, quelli prima della legge e quelli dopo la 107, per noi da tutti i punti di vista era inaccettabile. Tenetela a mente questo ragionamento, perché poi ne parleremo a proposito delle graduatorie interne di questo ragionamento. Quindi tutti hanno le stesse opportunità. Chi sta su scuola vuole un'altra scuola, chiede solo la scuola e altrimenti rimane dov'è. Si vuole spostare perché ci sono più posti e vuole andare dalla Campania in Calabria o nel Lazio? Beh, forse 5 scuole saranno poche, decide lui se vuole, come dire, allargare queste possibilità. Tenendo presente che l'ambito è una preferenza puntuale, non è una preferenza sintetica. In un ambito ci sono N scuole, ma chi chiede l'ambito va sull'ambito e poi partecipa all'altra partita. Ma non, come dire, è una preferenza puntuale, non è come il comune, il vecchio comune, il vecchio distretto, perché quando in passato si metteva comune o distretto si arrivava a scuola non scegliendo ma secondo l'ordine dei bollettini, se ricordate, sì. Ma si finiva su scuola. Adesso chi va sull'ambito è una preferenza puntuale, esattamente come la Dante Alighieri, singola scuola. Chi invece mette la provincia, che è l'unica preferenza sintetica, dovrà finire su un ambito. Qual è il criterio? Si segue l'ordine come dire, indicato nei bollettini, che in genere partono dal centro di quel territorio. Un ambito è un territorio, normalmente, poi come dire, ognuno ha fatto un po' come gli pare in giro, però il criterio era che si doveva partire dal cuore e poi con il principio della prossimità costruire un elenco dove gli ultimi fossero i più distanti rispetto al perno centrale, per dirla in sintesi. Questo doveva essere il criterio quando sono stati definiti gli ambiti. Le preferenze esprimibili, l'ho già anticipato, sono 15. L'altro concetto che sta nell'intesa del 29 dicembre, quindi l'abbiamo ovviamente messa nel contratto: i movimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Che significa questo? Significa che se io ed Enrico, lui da Caserta, tutto a Caserta, vuole andare in una scuola di Caserta e io che vengo da Terni voglio andare a Caserta, anche se io ho il doppio dei punti di Enrico, in quella scuola c'è Enrico. Se invece Enrico vuole andare in una scuola di Caserta, ma vorrebbe anche andare a Roma, cioè cambiare provincia, è Enrico che decide a chi dare la precedenza delle due. Quindi la fase comunale precede quella intercomunale, per cui uno con più punti da fuori provincia non può, come dire, venire prima di uno con meno punti che sta già in provincia. Ok? Dopodiché, se uno chiede più cose, perché nelle 15 preferenze abbiamo detto prima che si può chiedere di tutto, quello che fa testo, e questo alla fine della consulenza è l'unico elemento dell'attenzione, perché vi anticipo già che la domanda sarà semplicissima, il modulo sarà molto semplice rispetto all'anno scorso, e però ci sono alcuni concetti di fondo. Se io faccio domande diverse, ho più opportunità, sono io che decido quale voglio prima e quale voglio dopo. Ok? Quindi nelle 15 preferenze, se parliamo del trasferimento, decido io se per me deve venire prima il trasferimento in un'altra provincia oppure il trasferimento in una scuola vicina a dove mi trovo già. Quindi io le posso mescolare come mi pare le preferenze, ok? Non è come le due domande del passato fino di tutto il primo ciclo, dove io facevo la domanda comunale e mettevo sì quello che provinciale e mettevo sì quello che preferivo, poi facevo l'interprovinciale ma sapevo che magari ero accontentato nella scuola che mi piace di più nella mia provincia, poi però siccome ho fatto la domanda interprovinciale, se viene soddisfatta anche quella, quella prevaleva su quella provinciale. Non sarà così, nel senso che decido io quella che metto prima e quella che metto dopo. Era un po' abbiamo, come dire, esteso un po' il modello storico della scuola secondaria di secondo grado. Perché anche nella scuola secondaria di secondo grado in passato si faceva un'unica domanda con 15 preferenze e nella secondaria di secondo grado si teneva assieme la mobilità provinciale con quella interprovinciale e non c'era la regola che l'interprovinciale prevale sul provinciale, c'era la regola alle superiori che decidevo io a secondo dell'ordine quale delle due doveva venire prima, mentre quando le domande sono distinte per forza devo decidere prima. Allora, voi sapete che tra un trasferimento e un passaggio di cattedra metto l'opzione. Il passaggio di ruolo da sempre prevale su tutto. Ma quando sto parlando del trasferimento, in passato, ripeto, nel primo ciclo erano due domande distinte e tutti sapevano che l'interprovinciale soddisfatta annullava e prevaleva sulla provinciale. Non era così nel secondo grado in passato, perché se io in passato mettevo prima scuole della provincia e poi decidevo di cambiare provincia le mettevo in coda, non cambiavo provincia se ottenevo un'altra scuola della provincia. Viceversa, io potevo ottenere anche una scuola della provincia perché la fase comunale e provinciale anche in passato si facevano prima, ma se poi però nell'ordine di preferenza avevo messo ai primi posti una provincia diversa, allora anche nella secondaria in quel caso l'essere soddisfatti per una provincia diversa mi annullava quella già ottenuta perché la fase era precedente all'interno della provincia. Adesso questo, come dire, questo schema funziona per tutti. Spariscono i comuni distretti, non ci sono più preferenze sintetiche, sono rimaste alcune preferenze specifiche perché abbiamo mantenuto il fatto che in certi tipi di attività di insegnamento ci va su, uno obbligato ad andarci se lo chiede, non può andarci contro la sua volontà. Quindi le scuole ospedaliere, le scuole carcerarie, l'educazione degli adulti, le scuole serali, non ci si va per caso, ok? Chi è interessato deve esprimere quella preferenza. Nel caso in cui indica ambiti o province, cioè ci sarà una casellina in cui si dice se uno è interessato ad andare anche su questa tipologia di posti. Che però sappiate cosa comporta questo, che se io barro quella casellina può capitare che io con meno punti vado su un ambito che ho chiesto. Enrico che non ha barrato quella casellina e c'ha più punti di me, in quell'ambito non ci va perché l'unico posto che è rimasto è quello, guarda caso, dell'educazione degli adulti. Allora, siccome lui non ha barrato la casellina, quando hanno esaminato la sua domanda, per lui i posti non c'erano più in quell'ambito. Quando sono arrivati a me, che sto dopo, perché con meno punti, siccome ho barrato la casellina e c'è rimasto quel posto, a me lo danno, a lui no. E questo però poi che succede nella fase successiva? Che quando si va dall'ambito a scuola, io ho un vincolo, ok? Cioè se posso scegliere, perché in base al punteggio che ho posso scegliere bene, ma se alla fine rimango l'unico che deve avere un incarico triennale e mi è rimasto il posto sull'educazione degli adulti, mentre lui, se ci sono altri posti, ha diritto a scegliere gli altri posti, nel caso mio sarò costretto ad andarci perché ho esercitato quell'opzione, ho espresso in anticipo questa mia disponibilità, quindi a quel punto posso anche finirci. Come si calcolano quali sono i posti per la mobilità? I posti all'interno di ciascuna scuola, anticipo, poi magari corro di più quando arriva la slide, sapete che c'è l'organico unico dell'autonomia. Perché c'è l'organico unico, ci piaccia o no? Perché lo prevede la legge, La legge 107, il comma 5, dice che è costituito l'organico unico dell'autonomia, che è dato dalla somma dei posti curriculari più i posti del potenziamento, più i posti del sostegno. Vabbè, i posti del sostegno hanno una loro caratteristica e specificità ai fini della mobilità. Ma i posti curriculari, i posti del potenziamento, non è che hanno un fiocchettino rosa e uno celeste, sono tutti uguali. Cioè la somma di questi due costituisce l'organico dell'autonomia di quella istituzione scolastica. E quindi ai fini della mobilità i posti disponibili sono la differenza tra il totale dei posti dell'organico dell'autonomia meno i docenti titolari meno i docenti che hanno avuto l'incarico triennale. È chiaro? Perché chi ha avuto l'incarico triennale, se sta bene e non fa niente, ha diritto a rimanere lì, eh? A meno che non ci sia una contrazione di posti, ma è un'altra fattispecie. Quindi dal punto di vista della mobilità, l'organico di una scuola è l'organico dell'autonomia e i posti disponibili sono la differenza tra i posti curriculari più quelli del potenziamento, meno i titolari di scuola, meno quelli che sono già con l'incarico triennale in quella scuola. La differenza, se c'è, mi dà le disponibilità. I posti nell'ambito sono la somma delle disponibilità delle scuole che costituiscono quell'ambito. Le disponibilità nella provincia di Napoli sono la somma delle disponibilità degli N, non so quanti sono, ambiti che costituiscono la provincia di Napoli ai fini della mobilità. Ok? Le aliquote le abbiamo già dette. C'è un piccolo problema, ma meno del passato, degli arrotondamenti, ma qui gli arrotondamenti sono abbastanza automatici. Bisogna andare, diciamola così, devono essere almeno 10 posti perché ce ne sia uno ai fini della mobilità professionale. Quando si fa il calcolo delle aliquote, questo calcolo per stabilire quanti sono i posti per la mobilità interprovinciale si fa una volta finita la mobilità dentro la provincia, perché abbiamo detto la mobilità provinciale precede quella interprovinciale. Quindi prima ci si muove dentro la provincia, si devono riassorbire numericamente tutti gli esuberi dentro la provincia, poi si tira una riga e su quel resto, se è zero o se è zero vuol dire che per l'interprovinciale non c'è niente, se è negativo vuol dire che rimane qualche esubero. Non dovrebbe accadere, perché gli organici e i posti del potenziamento dovrebbero essere dati in modo tale da riassorbire l'esubero, cosa che l'anno scorso non è stata capita volutamente o in buona fede, non lo so, dagli uffici territoriali, e il Ministero se n'è accorto troppo tardi, perché altrimenti avrebbe bacchettato tutti, perché nel dare il potenziamento, oltre ad assegnare i posti su cui sono state fatte le assunzioni, alle scuole bisogna dare anche i posti dove c'è esubero. Perché non esiste che io creo posti nuovi e tengo gente in esubero. Ovviamente a noi questa roba non ci interessa, perché se noi fanno più assunzioni e c'è gente in esubero che comunque in una scuola lavora, non siamo noi, come dire, che svolgiamo il ruolo del MEF, ma dal punto di vista dell'amministrazione questo non dovrebbe accadere. L'anno scorso è accaduto, quest'anno vedremo. Quando è che si calcola l'aliquota? Quando ovviamente c'è un resto positivo. Va bene, si calcolano quelle percentuali e poi si mantengono fisse, ovvero il 60% si accantona, quindi sono i posti minimi che devono essere disponibili per l'assunzione in ruolo dell'anno dopo. Poi però c'è il 40% che va alle due mobilità, e quel 40% durante la mobilità può succedere di tutto, può succedere che si consuma tutto, ma può succedere anche che aumenta. Può succedere che nessuno è interessato al trasferimento, i posti, il 30% non vengono spesi, non vengono, come dire, occupati. Che succede allora? Allora, il principio è che il 60 si accantona, il 40 è patrimonio della mobilità. Questo 40, per effetto della mobilità stessa, aumenta? Perché sono più quelli che escono rispetto a quelli che entrano? Tutti quei posti che si liberano per effetto della mobilità sono patrimonio della mobilità, ok? Quindi vuol dire che se c'è qualcuno che esce, quel posto non è che rideterminano la liquida del 60% e continua ad accantonare. Fatto l'accantonamento si finisce tutte le operazioni di mobilità. I posti che si liberano vanno a incrementare la quota della mobilità. In teoria il 10% della mobilità professionale potrebbe anche diventare un 40%, se con i posti, ma addirittura anche di più, perché se le persone escono e non entra nessuno, ovviamente non solo si prende quel 30% iniziale, ma potrebbero anche aumentare ai fini della mobilità professionale. Questo può essere un piccolo contentino, ma per chi è interessato alla mobilità professionale io prevedo che sicuramente da Roma in giù è improbabile che accada, ma sicuramente da Roma in giù accade, come dire, ampiamente questa roba, perché sappiamo tutti come più o meno vanno i flussi. Quindi diciamo che nel centro nord, in particolare nel nord, la probabilità di avere la mobilità professionale sarà sicuramente più alta rispetto al... l'organico dell'autonomia. Qui c'è stata una grande discussione, perché ovviamente ci sono i favorevoli, i contrari, e ci sono le conseguenze. Però intanto, siccome vi romperanno le scatole quando andrete a fare l'assemblea su questo, una cosa dite: che il contratto della mobilità non può far nulla sull'organico dell'autonomia. Chi dice che la mobilità non va bene perché ha introdotto l'organico dell'autonomia? Io ero titolare sulla sezione staccata nel comune di Vattelapesca. Adesso non c'ho più questa garanzia, perché vado a finire nel calderone della scuola unica che sta nell'altro comune, mi sta a 30 km, 50 km. Ci sono alberghieri, due sede centrale, sezione staccata, anche a 40-50 km in Italia, per fare un esempio. E purtroppo diventa un organico unico. E non è che è responsabilità del contratto, perché gli organici non li regola il contratto della mobilità. La titolarità unica è un atto amministrativo, sta nella legge. L'anno scorso non l'hanno fatto perché non l'hanno fatto in tempo. Quest'anno lo stanno facendo, e a tutti voi vi stanno cambiando la titolarità, anzi due. Una di scuola, se avete più sedi, nel senso che la titolarità diventa unica, ma anche quella delle classi di concorso. Voi quando andrete ad aprire la schermata vostra, se siete voi interessati a fare la mobilità, vi troverete i dati cambiati, e la prima pagina sapete che è di default, come si dice, no? Perché è un'operazione che stanno già finendo, che stanno facendo, e probabilmente starà già a buon punto. Quindi c'è l'introduzione dell'organico 1 dell'autonomia, che noi dobbiamo gestire con la mobilità, in particolare sulla faccenda delle graduatorie interne, ma che non era nella nostra potestà né contrastare né impedire che loro che lo potessero fare. La stessa cosa è l'attuazione del decreto sulle nuove classi di concorso. Anche lì c'è una sorta di automatismo, ma insomma non la faccio lunga. Alla fine, quando uscirà la circolare sugli organici, dobbiamo sapere che l'organico sarà con un'unica sede di titolarità, anche se quella scuola ha 3-4 sedi diverse, così come l'organico sarà per distinta classe di concorso, ma non quelle vecchie ma quelle nuove, ok? Quindi con tutti gli effetti, diciamo, dovuti alla convergenza delle vecchie classi di concorso all'interno delle nuove. Le atipicità, problemi di questo genere dovrebbero sparire, ma comunque questo vedremo, se ci sarà bisogno di fare qualche fase transitoria o meno, ma io penso di no, nella circolare sugli organici, che è materia che vedremo fra un po'. Cattedre esterne e cattedre interne. Ditemi finché resistete, poi io volevo arrivare alla fine di questa parte più descrittiva, compreso il punto sulla chiamata d'abili, poi semmai facciamo il break. Le cattedre orario rimangono, però il Ministero ha dato disposizione agli uffici che le cattedre orario si fanno e si devono fare all'interno dello stesso ambito, che piaccia o no. Ci sono i pro e i contro di questa cosa. Il contro qual è? Che potrebbe capitare che una scuola c'ha 12 ore e a fianco ce n'è un'altra con 6 nel comune vicino, però guarda caso quel comune fa parte di un altro ambito. Questa è la parte negativa. La parte positiva qual è? Che teoricamente si dovrebbero ridurre un po' le distanze, perché il criterio è dentro lo stesso ambito, e il criterio della prossimità, cioè le scuole di tutti gli ambiti stanno in un elenco che è un po' come le tabelle di vicinorità di una volta tra comuni, anche tra scuole c'è. Quindi il criterio deve essere stesso ambito, e diciamo in base alla prossimità tra le singole scuole che le compongono. Nel modulo domanda cosa ci trovate? Non ci trovate più l'opzione cattedra oraria all'interno del comune o fuori comune, perché non esiste più il comune. Ci troverete l'opzione cattedra orario sì no, sapendo che la cattedra orario, se barrate sì, aumentano le opportunità, Il rischio qual è però? Che la cattedra oraria sta in due scuole o anche tre all'interno dello stesso ambito. Ultima considerazione, questa opzione, scusate, vale solo per la preferenza specifica scuola. Non può valere l'opzione cattedra orario per l'ambito né per la provincia. Perché uno che chiede l'ambito, è in quell'ambito ci sono n posti. Se ci sono 10 posti di una tipologia di classe di concorso o posto della scuola primaria, a parte la scuola primaria non esiste, il problema della cattedra orario è tutta la secondaria, di una cattedra X, e magari di questi 10 posti 2 o 3 sono cattedre orario, non è che nelle disponibilità dell'ambito c'è questa distinzione, i posti sono 10, chi chiede trasferimento sull'ambito concorre per quei 10 posti. La partita cattedra orario sì no viene dopo, cioè sta poi nel passaggio dall'ambito a scuola, che noi dovremmo far sì che chi ha più punti possa scegliere meglio, ma come sappiamo ci sarà anche qui una mediazione, perché non potrà essere che funziona col punteggio, il punteggio non ne voglio neanche sentir parlare, cioè il punteggio eventualmente vale solo per l'assegnazione d'ufficio da parte dell'USR, oppure a parità di altri requisiti, lo vedremo magari fra un attimo. Quindi qui direi che si è un po' svuotato l'importanza di questa opzione, perché, riassumo, vale solo per le 5 preferenze di scuola che io indico. Solo per queste 5 io posso dire sì o no alla cattedra orario, per il resto questa opzione non condizionerà il risultato. Individuazione dei perdenti posto. Allora, la prima considerazione, abbiamo detto che sulle tabelle non abbiamo cambiato niente, quindi le regole sono quelle solide, va bene? Ovvero c'è la distinzione tra il ruolo e preruolo e il ruolo diverso. Il ruolo diverso vale per intero, se sta nel blocco della secondaria o nel blocco della primaria, vale come il preruolo se passo dalla primaria alla media o viceversa, mentre tra infanzia e primaria, primo grado e secondo grado, vale per intero. Altrimenti si somma al preruolo e la regola è 4 anni per intero, il resto 2 terzi. Le regole, chi ha fatto un po' di consulenza negli anni passati, non sono cambiate. Dove sta la novità? Sta sul fatto che se c'è meno 1, chi devo prendere in considerazione? Noi abbiamo deciso, con qualche mal di pancia anche in casa nostra, che però a me mi ha fatto molto arrabbiare percepire da qualche parte questo mal di pancia, c'hanno tutti gli stessi diritti i docenti in quella scuola, eh? Cioè il docente titolare c'ha gli stessi diritti del docente con l'incarico triennale. Mentre qualcuno diceva, beh, io mi costruisco la ruota di scorta, cioè della serie, chi ha l'incarico triennale non deve avere gli stessi diritti di chi è titolare, quello titolare ha un po' più diritti di quello dell'incarico, perché per definizione c'è l'idea che l'incarico valga meno, sia meno, come dire, meno impegnativo. Guardate che non è così neanche per legge, eh? Perché se rileggete la 107 bene, c'è scritto che l'incarico è triennale, ma dopo 3 anni non è che il preside di Tieno ti manda via a sua simpatia, eh? Dopo 3 anni si va via se il posto salta, ma si può andare via anche prima dei 3 anni se il posto salta. Quindi è sia il titolare di scuola che può stare sul curriculare, ma anche sul potenziamento, attenzione, perché c'è anche questa di equivoco da smontare, eh? I posti sono tutti uguali, non sono riconoscibili, non c'hanno il fiocchetto, prima ho detto rosa e giallo, sono tutti uguali, quindi uno può essere titolare di scuola anche se non rientra tra quelli che stanno sul curriculare, viceversa ci può essere un incarico triennale anche sul curriculare se c'è un posto scoperto sul curriculare, mi spiego? Quindi sono trattati tutti alla pari, perché ci siamo rifiutati di classificare in 2 categorie i docenti, perché non l'hanno scelto loro di finire con l'incarico e di finire sull'ambito, perché gliel'ha imposto la legge, non è una libera scelta, perché la legge dice comunque che lui rimane lì fino alla pensione se quel posto non diventa meno 1 e quindi ha gli stessi diritti, di conseguenza deve essere una graduatoria unica. Qual è l'eccezione di quest'anno? Quest'anno è chiaro che tutti gli incaricati sono ultimi, ma perché vale abbiamo mantenuto la regola storica degli ultimi arrivati. Quindi quelli che sono venuti nella scuola Dante Alighieri dal 1 settembre 2016, sia quelli arrivati come titolari di scuola, sia quelli con incarico triennale, sono gli ultimi arrivati perché sono arrivati al 1° settembre dell'anno in corso. Allora questi vanno in coda, ma stanno assieme. Non è che il titolare di scuola sta sopra e l'incaricato sta sotto. Dall'anno prossimo gli incaricati entreranno a pieno titolo insieme ai titolari di scuola. Dimmi. Siete stati molto disciplinati, questa è la prima domanda. Flash, dai. L'incarico triennale dopo 3 anni non vale più la loro domanda per venire nella scuola oppure per andare nella nuova scuola? Assolutamente no, se non vogliono andarsene, se non vogliono... Non solo l'incarico triennale, ma ripeto, c'è scritto nella legge che è automaticamente confermato, a meno che non si diventa, a condizione che il posto ci sia ovviamente. Questo lo dice la legge, è chiaro che noi l'abbiamo, come dire, regolato in maniera un po' più corposa, nel senso che c'è un meno uno, c'è un perdente posto, benissimo, come si individua il perdente posto non si fa, come dire, nessuna distinzione. Questo ve lo segnalo politicamente anche come scelta, perché fa venir meno il malumore che c'è, perché nel contratto si dice che non si può richiedere la scuola dove si è titolari, questo da sempre, perché se uno metteva negli anni passati la stessa scuola dove era titolare, quando gli usciva il tabulato c'era scritto preferenza non esprimibile. È evidente, se io sono già titolare non è che chiedo il trasferimento per diventare titolare nella scuola mia. Ma la stessa cosa vale per l'incaricato, il quale invece vorrebbe diventare titolare nella propria scuola. E infatti ci sono mugugni su questo, quando farete l'assemblea lo direte, ci sarà qualcuno incavolato che verrà a dirmi: ma perché a me che ho l'incarico non mi dà la possibilità di diventare titolare sulla scuola mia, quella che io al tavolo chiamavo capriola sul posto mio? Intanto è ovvio che non può essere un automatismo, no? Perché se tutti quelli titolari di ambito, incaricati a scuola, automaticamente diventavano titolari, il posto c'è a scuola, perché io occupo un posto, quindi è matematico che il posto mio c'è a scuola. È chiaro che se non può essere, qualcuno ha detto: ah, ma per il sostegno l'anno scorso l'avevate fatto, ma è tutta una cosa completamente diversa, quello non è un incarico triennale, lì è la DOS che è scomparsa e dovevano diventare tutti titolari di scuola. Ed è chiaro che abbiamo, vuol dire, chi voleva essere confermato, come prima c'era il diritto alla conferma nell'incarico con le utilizzazioni, se ricordate la DOS sceglieva le scuole con le utilizzazioni, non con i trasferimenti dentro la provincia, e c'era il diritto alla conferma che veniva prima dei cambiamenti, dovendo dare la sede, è chiaro che lì è stata data per chi la voleva per conferma. L'incarico triennale non può far domanda, se non altro per una ragione tecnica molto semplice, perché il sistema non riesce a gestirla questa operazione, perché quel posto non è disponibile per la mobilità, perché ho detto prima che ai fini della mobilità io ho 100 posti in una scuola, semplifichiamo, ho 80 titolari, 80 sono già occupati, ho su 100 posti 8 incaricati triennali, quelli mica li posso cacciare via. Quindi io di quella scuola 80 più 88 posti su 100 sono occupati, ai fini della mobilità ci sono gli altri. Quindi se uno ha l'incarico triennale su matematica, quel posto non è disponibile, quindi non ha senso, come non ha senso per il titolare mettere la propria scuola, neanche per l'incaricato. Se uno la vuole mettere a tutti i costi, la metta, non è che la domanda viene annullata, ma poi comparirà preferenza non esprimibile. Anche perché teoricamente per poter fare l'operazione io quel posto lo dovrei liberare, no? In maniera che con la domanda lui possa andarci, ma se io lo libero, domanda, ma chi garantisce che tocca a lui? Perché mica è così automatico, cioè se quella scuola me la chiede un altro con più punti di quello che c'ha l'incarico, se io lo libero quel posto e ci va quell'altro, e la conseguenza qual è? Che caccio via quello con l'incarico, cosa che non è giusto fare e né posso fare. È chiaro qual è la ragione per cui non è stato possibile chiedere la propria scuola? E allora come facciamo a tranquillizzare le persone? Uno, ti trattiamo come gli altri, non è che tu che stai in una scuola come incarico sei figlio di un Dio minore, se c'è meno uno sei trattato come gli altri, concorri assieme e ti salvi se c'è più punti di uno che è titolare, quindi non è che il titolare è più garantito di te. Poi la legge stessa ti dice che dopo 3 anni, se non c'è meno uno, il posto è automatico, quindi con questa operazione, se tutto va in porto, noi praticamente abbiamo tolto questo pathos di preoccupazione che c'è, che l'incaricato triennale si sente figlio di un minore o meno tutelato di quello che è titolare di scuola. In realtà non è così, tu rimani lì se non te ne vuoi andare, se te ne vuoi andare puoi anche scegliere liberamente gli ambiti, perché molti dicono io voglio cambiare provincia, voglio cambiare provincia, però ho paura a mettere l'ambito. E che paura c'hai? È chiaro che finirai in una scuola, cioè non è detto che te la potrai scegliere, perché c'è tutta la partita poi dell'incarico. Però una volta che sei arrivato sull'ambito, hai scelto la scuola, vuol dire che in prima battuta ti tieni quella. Poi l'anno dopo, se passa questo principio, cioè quello che dalla Lombardia deve venire in Campania, è chiaro che metterà gli ambiti delle province, se non è tonto, non mette le scuole. Ma una volta che entra nella provincia sua e magari nell'ambito suo, l'anno dopo gli dà la scuola. Perché l'anno dopo avrà sempre la possibilità, se rimane il principio di 15 e 5, di diventare titolare di scuola. Dimmi. L'incarico triennale, sì, legato a stop, sì, e triennale, sì, vengo nominata. È triennale se non c'è contrazione, ripeto, perché sennò si perde il posto anche dopo un anno. Ok. Ma questo è d'accordo. Mm. Sono nominata su informatica, scuola, sì, primaria. Dopo 3 anni il dirigente. No, non sei nominata su informatica, sei nominata nella scuola primaria su un posto del potenziamento della primaria. Non esiste il posto di informatica. Con chiamata diretta, okay, in base alle competenze. Okay. Dopo 3 anni il dirigente decide di cambiare il TOF, modificare il TOF. Nella scuola primaria non funziona questo ragionamento. Non lo può cambiare. No. Perché i posti sono distinti. Per cambiare il TOF lo può fare nella secondaria. Cioè, io il preside cosa fa? A parte che già dire preside a me mi fa venire l'orticaria. Perché il preside fa le proposte e devono passare negli organi collegiali. Diciamola così, perché la cosa regolare funziona così. Il preside propone, diciamolo in modo corretto, il preside propone di modificare che cosa? Il curriculare no, perché i posti vanno coperti. Decide di modificare il potenziamento. Ma non funziona nella primaria, perché i posti di potenziamento nella primaria sono indistinti. Punto. Nella secondaria, aspetta, fammi finire. Nella secondaria invece, se io ho avuto un po' 3 posti di diritto di educazione fisica, che magari me l'hanno dato e manco l'ho chiesto, vorrei provare ad avere, che ne so, uno di lingua straniera o di matematica, allora lì posso proporre di cambiare. È lì che viene fuori il problema, perché se è diventato uno con incarico triennale, ma addirittura uno trasferito sul posto di educazione fisica, e il preside mi chiede di ridurre i posti di potenziamento dell'educazione fisica da 3 a 2 perché ottiene 1+1 di matematica, e allora è chiaro che lì c'è una disponibilità nuova di matematica e c'è un meno 1 dei titolari di educazione fisica. Allora lì rischio di perdere posto. Scusa, il senso della chiamata per competenze nella... Allora, il senso della chiamata per competenze è che tutti hanno la patente per insegnare. Tutti sono abilitati e tutti possono coprire tutti i posti. Il senso della chiamata è che, siccome, diciamo, ragiono un po' anche su come filone del ragionamento nuovo, poi ci arriviamo, siccome a me piacerebbe fare con quel posto del potenziamento un determinato progetto, recupero, c'ho molti extracomunitari, mi piacerebbe potenziare la lingua inglese, potenziare le competenze informatiche, però io sul bacino, cioè dentro l'ambito, ho tutti insegnanti della scuola primaria, giusto? Posso provare a chiedere se c'è qualcuno che ha la laurea in lingue? Uno che ha fatto il CLIL? Uno che ha un'esperienza all'estero di 3 anni con insegnamento in madrelingua? Perché? Perché se io riesco a pescare tra gli insegnanti della scuola primaria, perché io il posto che ho da coprire è un posto della scuola primaria, sul potenziamento. Io piuttosto che far coprire quel posto da un docente che ha l'idoneità all'insegnamento della scuola primaria e basta, a fianco a questo trovo uno che ha anche la laurea in lingue, viva Dio, io, come dire, vale per la prima volta. Ma dopodiché, allora, un conto è cambiare la tipologia di posto. Se cambio la tipologia di posto, allora c'è un perdente posto e un posto nuovo. Ma se la tipologia di posto... quello che ho detto prima, nella secondaria. Nella primaria non esiste questa possibilità. Nella primaria sì. Poi dopo non no, avviene con i posti nuovi ogni anno. Certo. Però nella primaria non posso cambiare tipologia di posto, che posto è unico. Il profilo è unico, è il docente della scuola primaria. Nella secondaria invece no, non è unico. Succederà, se una scuola fa un progetto diverso, chiede posti diversi e il provveditorato gliele autorizza. Perché c'è anche quest'ultimo passaggio, eh? L'anno scorso le scuole hanno chiesto il libro dei sogni su 8-10 posti con certe caratteristiche, se va bene ne hanno ottenuti uno, due. Poi gli sono arrivati quelli che l'amministrazione doveva collocare perché li ha assunti e quindi non c'è stata neanche la possibilità. Però via via questa cosa si dovrebbe un po' riassorbire, no? Cioè man mano che la gente va in pensione con i posti in più dell'anno prossimo, forse un po' più di margine di scelta ci sarà. Quindi nel prossimo TOF, noi TOF ha avuto un docente, facciamo un esempio concreto, ha avuto un docente di materie artistiche che non c'entra niente con il liceo classico, oppure di diritto ce n'ha avuti tre quando gliene avanza uno. Io magari provo a chiedere, che ne so, voglio potenziare le matematiche, voglio potenziare le lingue, vorrei un posto di potenziamento con uno che ha il titolo per insegnare matematica. Lo chiedo. Quindi se io ho diritto a 7 posti di potenziamento, ne chiedo di cambiarne 1, 2, 3, allora la richiesta è legittima. Bisogna vedere quello che risponde il provveditorato. Se il provveditorato autorizza perché nel margine di flessibilità provinciale che ha, ovvero di non creare esubero, ma di ricollocare tutti quelli che ha, e c'ha un margine di flessibilità e dice di sì, il risultato della tua scuola qual è? Che ci sarà meno uno di diritto e più uno di matematica. Che fine fa? Quel più uno di matematica diventa disponibile per i trasferimenti, da ultimo verrà coperto dall'ambito A, oppure con supplenza annuale o nuova emissione ruolo. Quello dell'educazione fisica però esce dalla scuola tua a condizione che ci sia un'altra scuola dove quel posto c'è. Nell'ambito. Anche in provincia. Non necessariamente nell'ambito. Perché altrimenti si creerebbe subito. Dimmi tu quando. Possibilmente le domande. Dai, basta. Però, allora, siccome nel fondo della sala non si sente la domanda facciamola qui. Sì, però io eviterei, dai, proviamo a finire e poi facciamo un break. Perché. Allora, due temi. Ci sono docenti in esubero, sia in provincia che a livello nazionale. Chi sono questi? I docenti in esubero in provincia sono le vecchie DOP, che in molte province sono state riassorbite, ma in qualche provincia no. Oppure possono essere docenti neoassunti in fase 0 e A, per chi, per usare le sigle, il gergo dell'anno scorso, che avevano diritto alla titolarità in provincia e che poi per errori nel fare gli organici, questi sono stati assunti in provincia, ma guarda caso il posto non c'era per loro. Sono 200-300 persone in Italia, complessivamente gli esuberi sono circa 3.000. Di questi 3.000 la metà, adesso vado un po' a palmi perché non mi ricordo i numeri esatti, non me li sono portati, sono vecchi esuberi provinciali. L'altra metà, circa 1.200-1.300, sono esuberi nazionali. Qual è la differenza tra i due? Gli esuberi provinciali sono quelli che avevano una titolarità in quella provincia, ma non sono stati riassorbiti perché nel potenziamento non hanno messo un numero di posti sufficienti per riassorbirli tutti. È l'errore che è stato fatto dal punto di vista dell'amministrazione MF, che è imbestialito su questa roba anche nei confronti del Ministero, nel fare gli organici l'anno scorso, cosa che invece dovevano fare, riassorbirli tutti. E questi sono gli esuberi provinciali, cioè Mario Rossi è titolare nella provincia di Napoli ma sta in esubero, va trattato in un certo modo. Poi ci sono stati i neoassunti dell'anno scorso, che dovevano girare in tutta Italia, ma la somma degli organici di tutta Italia non è stata sufficiente per dare un posto a tutti, ce ne sono 1.500, che fine hanno fatto questi? Questi sono stati parcheggiati in esubero bene quest'anno, perché hanno scelto la provincia vicino casa, dovendoli mettere in esubero. ma questi però sanno che loro in quella provincia non hanno niente a che spartire, ci stanno solo in servizio e in esubero in quella provincia, ma non sono titolari di quella provincia. Capite che ci sono quindi due fattispecie di esuberi diversi. Che fine facciamo fare i primi, che fine facciamo fare i secondi? Gli esuberi con titolarità provinciale fanno una domanda come tutti, se ottengono bene, altrimenti vanno d'ufficio in tutta la provincia se i posti ci sono. Se i posti ci sono perché l'organico lo fanno bene, come dovrebbe essere fatto, ma magari sono un po' scomodi, lui nella domanda non li chiede, va a finire d'ufficio o su scuola o su ambito. Se continuano a sbagliare gli organici perché, o a farli in maniera da mantenere l'esubero, che a noi stiamo zitti, non ci interessa fino a un certo punto, che succede? Che se il posto non c'è né a domanda né d'ufficio, permarranno in esubero in un ambito, quale? Quello su cui probabilmente stanno lavorando quest'anno. Noi nel contratto abbiamo detto, anzi nel contratto non c'è scritto, sarà, lo preciseremo nell'ordinanza, saranno sistemati d'ufficio a partire dalla prima preferenza che indicano nella domanda volontaria, d'ufficio. Se non c'è niente in provincia, non ci sono posti a sufficienza, saranno sistemati in esubero nell'ambito individuato dalla prima preferenza espressa nella domanda. Ok? Gli esuberi nazionali invece, e questi devono girare tutta Italia, eh? Come? Faranno domanda come tutti, hanno 15 preferenze, potranno indicare anche 15 province. È probabile, se sempre se gli organici vengono fatti bene, che in una di queste 15 province un posto lo trovano. Se non lo trovano, che succede? È un po' quello che sta il bis dell'anno scorso, è l'unico caso in cui si fa il bis, cioè si parte dalla prima provincia individuata, dalla prima preferenza che loro mettono, e poi con la prossimità ci si allontana a 360 gradi fino a che non si trova una provincia dove c'è un posto. Se anche quest'anno dovesse capitare che si gira l'Italia e non si trova niente, continueranno a rimanere in esubero nell'ambito e nella provincia dove, che loro hanno indicato per prima come preferenza. Però questi, se non dovessero ottenere nulla né a domanda né d'ufficio, continueranno ad essere in esubero su tutto il territorio nazionale, quindi non avranno una stabilità. Precedenze, sto finendo velocemente, dai, abbiate pazienza, cosa abbiamo fatto? Ancora siamo arrivati? No, abbiamo un'altra ora. Allora, io mi prendo 10 minuti, un quarto d'ora e finisco, poi un po' di domande e arriviamo all'interruzione di pranzo. Su, all'interno di queste categorie, parliamo degli esuberi, eh? Sì. Abbiamo quelli che sono arrivati con dispositivo del giudice. Questa è un'altra cosa, questa se la vede l'amministrazione. Questa se la vede l'amministrazione, questa partita. Noi non regoliamo, finisco, non regoliamo con il contratto gli esiti delle sentenze. Il 90% di queste sentenze però dovete sapere che sono provvisorie, eh? Cioè questi qui non hanno avuto una sentenza definitiva, hanno avuto un provvedimento d'urgenza in cui il tribunale ha detto, in attesa dell'esame definitivo del ricorso, siccome a spanne capisco che c'è stato un errore, l'amministrazione ti deve soddisfare nel posto più vicino possibile a quello che tu hai chiesto, e questa persona sta parcheggiata lì. Va bene? Rimane lì, ma se non è una persona con un po' di sale in zucca, la domanda la farà, no? Dopodiché decide, fa la domanda, partecipa. Se la domanda avrà un esito soddisfacente, che fa? È nel suo interesse ritirare il ricorso, se non altro dal punto di vista dei costi, perché ripeto, il ricorso non è andato ancora nel 90 e più per cento dei casi a sentenza. Se fosse sentenza definitiva, il problema è risolto, sta lì. C'era un posto? Sì, parte da quel posto. Non c'era un posto? È trattato, come abbiamo detto un minuto fa, come esubero, ma titolare in provincia, perché c'è stato un tribunale che gli ha dato soddisfazione definitiva. Se invece è provvisoria anche per lui, quindi rimane lì, partecipa alla mobilità volontaria, se ottiene qualcosa decide lui se ritirare il ricorso e quindi chiude la faccenda, oppure non lo ritira, il ricorso va avanti, e quindi quella persona nel frattempo rimane in esubero in quella provincia. ma non è lo stesso, è un esubero diverso, insomma, rispetto a quelle due categorie che abbiamo visto. Scusate, precedenze, le precedenze sono quelle che conoscete da anni. L'unica differenza che abbiamo anticipato quella per l'assistenza a legge 104 l'abbiamo anticipata al diritto al rientro per i perdenti posto dell'ottennio. Qualche considerazione: noi abbiamo fatto una grande fatica a mantenere il diritto al rientro per 8 anni, l'amministrazione diceva questa roba superata, non vogliamo sentir parlare. L'abbiamo mantenuto, ma questa è l'unica preferenza che mette il contratto. Tutte le altre precedenze sono per leggi, sono determinate da leggi speciali. I non udenti e gli emodializzati, la legge 104, gli amministratori locali, il codice dei militari, sono leggi speciali che noi dobbiamo regolare, ma non possiamo come dire, omettere. L'unica precedenza contrattuale è il diritto al rientro nella scuola e in subordine nel comune. Quella del comune l'abbiamo messa dopo la 104 perché ci sono state delle sentenze che hanno detto: questo c'ha la 104, c'ha più diritto a mettere il rientro nel comune, non c'è nessuna legge che lo prevede, il giudice ha detto non mi interessa, viene prima questo. Allora, per evitare qualche altra sentenza che delegittima il contratto, abbiamo dato la precedenza alla 104 rispetto al rientro al comune. Anche perché il rientro al comune è un po' diminuita come precedenza, non essendoci più la fase comunale. Mi spiego, cioè si partecipa nella stessa fase provinciale e il diritto di precedenza ce l'ho solo, devo chiedere alla scuola mia, se non c'è posto lì e chiedo altre scuole del comune, ma ce n'ho 5 da spendere, non è che ce n'ho tante, quindi non c'è più neanche tutto il grande comune dove avevo la precedenza, a meno che non faccio la scelta di passare titolare sull'ambito, cosa che probabilmente un vecchio titolare di scuola è un po' difficile che faccia. Comunque questa è l'unica novità. L'altra novità è che abbiamo applicato la legge sulle unioni civili, quindi chi è unito civilmente è come se fosse coniuge dell'altro. Questo vale per il punteggio del ricongiungimento, vale per il diritto di precedenza a legge 104 per quanto riguarda l'assistenza. Cioè chi è unito civilmente è come se fosse coniuge e quindi i diritti sono equiparati. Sulla tabella di valutazione vi ho già detto. Dimmi. La 104 vale anche per gli affini o solo? Sì, sì, con atto del tribunale, no, gli affini, i tutori. Genitori e affini entro il terzo grado? Affini? Sì. No, no, gli affini non c'è nella mobilità. La regola è quella storica, la riassumo, nella mobilità noi diamo, che vuol dire tradotto, trasferimenti definitivi. Perché la mobilità è fatta da due fasi, cioè quella definitiva e quella annuale. Nella mobilità definitiva i familiari sono quei tre soggetti che conosciamo: ricongiungimento al figlio, al coniuge e al genitore, non nell'interprovinciale ma solo nella provinciale e a determinate condizioni. Poi invece nella mobilità annuale, utilizzazione e assegnazione provvisoria, ci sono gli affini che prevede la legge fino a... l'unione civile ho detto, la tabella di valutazione ho già detto, ai fini della domanda volontaria c'è l'unificazione, dimmi. I punti per il ricongiungimento a coniuge e figli valevano nel comune, non essendoci adesso il comune come scelta. Vale per le scuole del comune o per l'ambito che lo comprende o per gli ambiti subcomunali, vedi Napoli, Roma, le grandi città. Quindi per dipende dalle preferenze che metto. Ma io non sono più obbligato a metterle prima, quando le metto e a secondo se è mobilità provinciale o interprovinciale, quei 6 punti mi spettano nel limite di quelle preferenze che io indico all'interno delle 15. Anzi, addirittura in passato era ancora diverso, perché nella mobilità comunale, che era la prima fase, il titolo 2 non valeva niente per nessuno, neanche i figli. Adesso invece, non essendoci più la fase comunale, ma è tutta provinciale, io li devo dare a tutti, cioè se anche mi sposto da una scuola ad un'altra dello stesso piccolo comune che ha 2 sole scuole, non è possibile che io a chi sta già nel comune e chiede l'altra scuola dello stesso comune i 6 punti non glieli do come facevo in passato e li do a quello che mi viene da un altro comune della stessa provincia, perché sennò verrebbe fuori che quello che viene da fuori comune sarebbe avvantaggiato rispetto a chi ci sta già. In passato questo problema non c'era, perché nel comune non si dava a nessuno, quindi erano tutti pari nella prima fase. Questo punteggio si dava nella seconda o nella terza. Adesso che la prima non c'è più, è tutta seconda o terza, io devo dare a tutti questo punteggio. Ok? Cos'è che fa testo? Le preferenze che indico. Se le preferenze stanno nel comune, le scuole, ok. Se sono ambiti, se il comune è più piccolo dell'ambito, siccome l'ambito diventa una preferenza puntuale, io devo dare quei 6 punti per quella preferenza. Napoli, che ce n'ha 5, 6, quanti ce n'ha di ambiti? Siccome era per tutto il comune, uno che viene dalla Lombardia e chiede Napoli, in passato valeva per tutto il comune di Napoli, adesso varrà per tutte le scuole dentro Napoli e per tutti gli ambiti che stanno dentro Napoli. Ok? Licei musicali, sapete tutto? C'è una fase straordinaria quest'anno, perché sapete che è la prima volta in cui c'è la stabilizzazione del personale che ci sta lavorando da anni, anzi nei licei musicali sperimentali da oltre 10 anni, quindi è evidente che non può seguire la procedura normale limitata al 10%. Contrattualmente si è stabilito che il 50%, perché non si può fare diversamente, avendo fatto i concorsi e avendo messo i posti a concorso, il 50% viene accantonato. Il dispari, che sono parecchi, siamo riusciti a portarlo a casa a favore della mobilità. Che tipo di mobilità sarà? È mobilità professionale. Può essere passaggio di cattedra, ma può essere anche passaggio di ruolo, a secondo se vengo dalla 31, dalla 32 o dalla 77. È chiaro che l'abbiamo dovuto mettere assieme. In poche parole sono 3 tipi di movimenti. Uno riguarda i licei sperimentali storici, che sono una decina in tutta Italia. Se i posti ci sono per tutti, chi fa domanda viene stabilizzato e libera il posto suo. In tutti i licei successivi all'introduzione dei licei musicali, in base al numero di anni in cui ho iniziato a lavorare in quel liceo, se chiedo quel liceo dove sto lavorando, ho la precedenza, ovviamente sul 50% dei posti. Cioè, se ci sono 2 licei e il posto è 1 e 1, a mobilità professionale ce ne va uno solo di questi 2, non ci vanno tutti e 2, perché il 50% lo devo accantonare. Quali ci va dei 2 licei? Beh, tutti e 2 faranno domanda, questi insegnanti che ci stanno lavorando, per avere la precedenza e essere confermati. Se ci lavorano dallo stesso numero di anni in quel liceo, la scelta ricadrà in base al punteggio. Se invece nello stesso liceo ci lavorano 2 persone, ma i posti che vanno a mobilità è uno solo dei 2, dipende da quanti anni ci stanno lavorando. Okay? Quindi il criterio è nello stesso liceo, perché la precedenza ce l'ho se chiedo il liceo dove sto lavorando, non altri. Io posso chiedere la conferma del liceo dove sto lavorando. Chi ci sta lavorando da prima viene prima di chi è entrato dopo. A parità, perché i posti non ci sono per tutti quelli che ci stanno lavorando, anche perché molti stanno lavorando su spezzone e i posti saranno meno delle persone che ci stanno lavorando, a parità di numero di anni fa testo il punteggio. Poi c'è una terza possibilità. Uno che non la vuole fare per la prima volta la domanda. Oppure questi che hanno chiesto la conferma, ma nel loro liceo non scatta la conferma, se vogliono, il famoso comma 10 dell'articolo 4, possono far domanda anche per un solo liceo diverso da quello dove stanno lavorando. Va bene? Anche qui qual è il criterio? Si fa, intanto sono tutte operazioni che fanno i provveditorati a mano. Si fanno gli posti, gli organici, si calcolano le aliquote, le persone interessate faranno domanda, uscirà una nota specifica sia per anticipare gli organici che per fare l'operazione manuale. Chi chiede altre scuole, anche di provincia diversa, lo può fare sui licei, concorre in base al numero di anni di esperienza maturata. E se fossero domande, ma le probabilità sono praticamente 0, di uno che non ci ha mai lavorato, perché azzecca un liceo dove quello che ci stava lavorando magari non chiede la domanda, o non so se potrà accadere mai, a parità di numero di anni di servizio, compreso 0 anni di servizio, l'eventuale posto viene dato in base al punteggio. dimmi. Scusa, no? Sembrerebbe che ci sia una disparità di trattamento legata al fatto che se io non rientro in quel 50%, rischio che chi viene da fuori ha diritto ad andare in quel liceo e io no. Nel mio no, non accade questo. Allora, la conferma ce l'ho solo tutti ce l'hanno solo nel liceo dove stanno lavorando. Quindi uno che non ci sta lavorando non può mai passare davanti a me. I trasferimenti non esistono. Questo si chiama, sono tutti passaggi di cattedra o di ruolo formalmente. Va bene? I trasferimenti non esistono. Ma con le vecchie classi di concorso, non con le nuove. 31, 32 e 77. Ma perché dobbiamo sistemare le persone che ci stanno lavorando con quei criteri lì, con quelle classi di concorso. Cioè le nuove varranno per quel 50% sui posti. Sì, ho capito, ma vale per il concorso. Il concorso è stato fatto sui posti. Non vale per la mobilità perché noi da 10 anni e più ci stanno lavorando queste tre fattispecie di personale. Non ci sta lavorando uno in lettere, uno che lavora l'insegnante di lettere, che fa il concorso perché ha tutti i titoli per insegnare nel liceo musicale e lo vince, concorre sul 50%, ma non partecipa alla fase di stabilizzazione straordinaria di chi ci sta lavorando. Chiarisci semplicemente, perché probabilmente non lo sanno, questa non si è... fino ad oggi è stata solo utilizzazione, non certo. Però non lo sanno. Fino ad oggi, allora, chi ci poteva lavorare fino ad oggi su questi posti? Solo con la domanda di utilizzazione. E chi? Solo quelli della 31, 32 e 77 in possesso di determinati requisiti. Va bene? Questi sono gli unici di ruolo che ci potevano lavorare fino ad oggi. Poi l'altra fattispecie che abbiamo visto, quale può essere? Che uno sui posti in più ci ha lavorato fino a ieri, cioè fino al 1 settembre 2016, come supplente, va bene? Perché i posti in più l'hanno coperti come supplenti, con determinati requisiti, eccetera, eccetera. Poi il 1 settembre qualcuno di questi è passato il ruolo, va bene? Ma ci sta sempre lavorando. C'è qualcuno magari che ci ha lavorato 4 anni come supplente e quest'anno ci sta lavorando come primo anno di ruolo. Teoricamente questa persona non potrebbe far domanda, perché essendo una mobilità professionale, questa persona sta facendo l'anno di prova e nel primo anno, finché non si è superato l'anno di prova, cosa che si supera per tutti il 31 agosto, non si può fare la mobilità professionale. Noi per questo abbiamo fatto un'eccezione, perché sarebbe una presa in giro che in quanto supplente gli davamo la conferma negli anni passati. Adesso che è passato di ruolo ci mettiamo un altro supplente nuovo perché a lui non gli diamo questa possibilità. Quindi partecipi tutti quelli, allora la mobilità professionale partecipano tutti quelli di ruolo, compresi quelli che sono passati di ruolo quest'anno. Quindi la deroga in che cosa consiste? Nel superamento del vincolo dell'anno di prova. Lo farà, a parte che lo fa lo stesso, ma come dire, è come se formalmente lo facesse l'anno dopo. In realtà lo sta già facendo perché l'anno dopo aveva prestato servizio alla stessa scuola, quindi come dire, dal punto di vista formale le procedure sono state tutte rispettate. Sul 50% si faranno le missioni ruolo, ok? Poi dall'anno prossimo, se ristabiliremo le regole storiche, ci sarà il famoso 50-50, perché 50 negli anni futuri sarà accantonato sempre per concorso, perché il concorso è triennale. Per fortuna, per certi versi, i vincitori di concorso sono meno dei posti disponibili, quindi questo dovrebbe aiutare anche nei prossimi anni la sistemazione di chi ci sta lavorando di ruolo che non riesce a rientrare quest'anno per il limite del 50%, e quindi speriamo, è chiaro che ci sarà qualcuno che... Quali sono i piccoli dettagli? Ci sono docenti che stanno lavorando su classi di concorso diverse. Potranno chiederle tutte, ma sempre sulla scuola dove stanno lavorando, non in giro per il mondo, mettendo l'opzione, se insegnano su due discipline, dicendo quale delle due scelgono per primo. Ci sono anche docenti che stanno lavorando su due licei diversi, addirittura di province diverse, anche in questo caso solo per le scuole dove stanno lavorando, perché non è una domanda libera. potranno chiederle entrambe, indicando a quale delle due danno la precedenza. Ma per il numero di anni relativo è limitato a quell'insegnamento in cui... Assolutamente sì, cioè si fanno due graduatorie distinte in ogni scuola. Se in una scuola ci sto lavorando da 6 anni, nella seconda scuola perché lì avevo uno spezzone che non sono riuscito a completare e ho ottenuto come domanda ex nuovo un altro spezzone di un'altra disciplina 2 anni fa in un'altra scuola, io posso farle entrambe, dico a quale delle due, ammesso che ci sia la possibilità teorica di averle entrambe, do la precedenza, ma concorro in maniera diversa in queste due scuole, perché su una ci concorro sulla base di 6 anni se ho 6 anni, l'altra di 2 anni se ho 2 anni. Okay? Tutte queste robe sono, saranno precisate nell'ordinanza, perché il contratto non lo dice. Vai. Provinciale, provinciale. Non esiste l'organico regionale. La conferma, se uno ha, se ci sono 20 posti, 10 vanno alla sala, si fa una graduatoria provinciale classe futuro. Si fa la graduatoria scuola per scuola. In base agli anni di servizio, no, non è un problema. Allora, scusa. Si fa scuola per scuola, nel senso. Ma tu parli dell'accantonamento, fammi capire. L'accantonamento. La conferma. La seconda. Allora, aspetta, i posti sono 20, va bene? 10 possono andare. Se i posti sono 20, questi 20 posti staranno in 20 scuole. Facciamo, no, 20 scuole è un po' eccessivo. Ce ne saranno 3 in una scuola. Oh, benissimo. Allora, i posti sono. La mobilità è numerica, non è indicata la scuola, va bene? Allora, 20 persone fanno la domanda di conferma, allora, ognuno a scuola sua. Certamente, io ho diritto sulla scuola dove sto in servizio, però ci sta chi ha 6 anni, chi 5 anni, chi 4 anni, chi 3. Bene. Siccome questo è un problema che abbiamo soprattutto noi, perché a Napoli, cioè in Campania ce ne sono 31 dirigenti musicali, solo a Napoli ce ne sono 10. Nell'85% dei casi, diciamo, a livello nazionale, hanno un solo liceo, quindi questo problema non si può. Ho capito quello che volevo dire tu. Allora, che cosa succede? Che io ho diritto al liceo 1, sì. L'altro ho diritto al liceo 2. Si fa la graduatoria provinciale, hai ragione, in base agli anni di insegnamento nel liceo, ok? Dopodiché tocca a me... I primi 10. Diciamo perché sto nel primo zoccolo per il numero di anni che ci sto lavorando. 6 anni. Ok. C'è posto nella scuola mia? Esatto. Se c'è posto nella scuola mia ci vado, ma se non c'è posto nella scuola mia non ci vado. Esatto. Ok? Però se c'è posto nella scuola mia me lo prendo io e ovviamente l'ultimo non lo trova un posto. Certo. Ok? Quindi riassumendo. 50% le scuole saranno quelle dove hanno diritto quelli che vengono prima, diciamola così. Come faccio a fare le graduatorie degli aventi diritto? In base al numero di anni di servizio, a parità di numero di anni di servizio su ciascuna singola disciplina, in base al punteggio della mobilità professionale. Il primo che sta in questo, quindi sono tutti zoccoli, va bene? Cioè 8 anni, 7 anni, 6 anni, all'interno degli 8 anni ci sono 3 persone? Tutte e 3 ci hanno il posto nella loro scuola? Cioè c'è un posto disponibile? Allora tutti e 3 sono confermati e mi vanno a consumare 3 posti del 50% che numericamente ho accantonato. Quindi potrebbe capitare che la scuola più vecchia c'ha 4 cattedre e tutte e 4 vengono consumate e le scuole diciamo più giovani in realtà rimangono con le cattedre diciamo scoperte, perché magari il 50% va si scarica tutto su quelle più giovani. Questo è molto probabile. Questo è importante accade, perché ci sono i docenti, quelli più anziani, diciamo così, che rispetto a questa procedura avevano questa preoccupazione. No, questa non è una, cioè chi è più anziano ha più tutele di quello che ha iniziato dopo. Perché il principio è che noi vogliamo stabilizzare, teoricamente vorremmo stabilizzare tutti per mantenere la continuità, perché l'anno scorso sono state petizioni, come si chiama, indagini parlamentari, interrogazioni parlamentari, perché tutti i genitori, i presidi, eccetera, chiedevano continuità, continuità, continuità. Bene, noi vorremmo dare continuità a tutti. siamo obbligati, perché l'amministrazione non può derogare, ha detto che non esiste questa possibilità, a farlo sul 100% dei posti, perché avendo bandito il concorso, altrimenti tutti quelli che vincono il concorso impugnerebbero l'atto, dobbiamo accantonare il 50%? Purtroppo sì. La conseguenza qual è? Che non c'è posto per confermare tutti. Il criterio qual è? Che siccome il principio è la continuità, è la continuità di chi ci sta da più anni, a prescindere dal punteggio individuale, viene prima di chi ci sta da meno anni. Solo a parità di numero di anni di servizio nei licei musicali scatta il punteggio della mobilità. Un vantaggio è il fatto del dispari. Dispari vuol dire che se c'è una sola cattedra va alla mobilità professionale. E questo non è stato facile portarlo a casa, perché siccome avendo sparato numeri alti nel concorso, per fortuna attenuato dai vincitori che non sono tanti, perché mi pare solo il Lazio ha più vincitori di concorso dei posti, perché in tutte le altre regioni sono molto, probabilmente il numero dei vincitori di concorsi nei tre anni sono meno dei posti di questo famoso 50%. Sulle materie complementari. Poi l'altra particolarità del vostra campana è che ci potrebbe essere la cattedra oraria anche nei licei musicali, ma capita solo in Campania, se non ho capito male, c'è lo stesso ambito. Perché solo in Campania ci sono più licei musicali nello stesso ambito, mi pare, così me l'hanno raccontato all'inizio. Ma voi che conoscete il territorio dovreste saperlo. Va bene, andiamo avanti, finiamo. Personale educativo, non cambia niente salvo una cosa, mi auguro positiva: possono scegliere fino a 9 province, in passato erano 3. Perché? Perché abbiamo detto 15, vogliamo dare 15 opportunità a tutti. Siccome convitti ce ne stanno uno per provincia, sono pochi quelli che ce ne hanno due, però anche 15 province diventa un caos. Perché? Perché queste sono operazioni a mano, Chi decidesse di fare domanda per 9 province deve fare domanda a 9 provveditorati diversi, i quali poi si devono sentire fra di loro se c'è più possibilità, per dire: da me c'è la possibilità, che fai? Glielo dai tu perché l'ha messo prima? C'è da te? Mi spiego quali sono le cose. Quindi personale ATA non cambia nulla salvo la modifica sulle precedenze, salvo la modifica sulla tabella di valutazione, perché anche per gli ATA abbiamo equiparato il servizio, con una precisazione però, che il servizio deve essere stato prestato ancorché in profilo diverso, ma nella stessa area. È chiaro? Perché? Perché per i docenti il profilo è unico, Chi passa dal ruolo della primaria al ruolo della secondaria è sempre profilo docente. Chi passa dall'area A collaboratore, vincitore di concorso, è passato all'area B, non c'è passato per domanda di mobilità, c'è passato per concorso. E non solo sono profili diversi, ma sono due aree diverse. Quindi qui, come dire, equiparare quel servizio giuridicamente è un po' più complicato. La dico in sintesi: uno che ha fatto il tecnico, è passato amministrativo, cuoco, infermiere e poi è tornato indietro, tutto quel servizio, a prescindere se di ruolo o a tempo determinato, è equiparato nella mobilità volontaria. Chi invece da collaboratore, perché ha vinto il concorso, è passato nel profilo di assistente amministrativo tecnico, cioè dall'area A all'area B, quel servizio non è equiparato perché, ripeto, è prestato in un'area diversa. Finiamo sugli incarichi. Rapidamente, così finiamo questo primo blocco. Non ho capito? Non sono cambiate neanche le fasi. No, è sempre la mobilità storica, comunale, non è cambiato nulla per gli ATA, così non ci siamo complicati la vita. L'accordo rispetto a ambito a scuola, partiamo, come dire, dai punti fermi. L'accordo del 29 dicembre diceva: sono definiti in un accordo separato e parallelo da sottoscrivere contestualmente al contratto della mobilità procedure e modalità per l'assegnazione alle scuole dei docenti assegnati negli ambiti sulla base di scelte che valorizzino il collegio dei docenti. Quindi per noi deve avere un ruolo centrale il collegio dei docenti, e l'amministrazione l'ha firmato questo, e le sue articolazioni nel caso di istituti comprensivi, in un quadro di requisiti e non criteri, perché i criteri sono, come dire, soggettivi per definizione. Il requisito è un requisito: c'hai la laurea o non ce l'hai, c'hai un titolo o non ce l'hai. avere particolari competenze nell'informatica. Che cavolo vuol dire avere particolari competenze? Chi è che le va? Qual è il criterio? Cioè, questo è un criterio, ma chi lo valuta? Chi lo misura? È chiara la differenza? Quindi per noi deve essere requisiti stabiliti a livello nazionale per assicurare imparzialità e trasparenza. Qui ci sono due problemi su cui vi vorrei dare conto. Il primo, noi abbiamo detto, abbiamo convenuto il 29 dicembre da sottoscrivere contestualmente, e anche il direttivo della FLC nazionale ha detto che bisogna, il mandato a trattare era per una firma contestuale. Ma perché si pensava in una settimana di farlo sto contratto? Abbiamo semplificato tutto, che ci vuole? Un piffero, è stato difficilissimo, 3 settimane dalla mattina alla sera dentro il Ministero, eliminare la fase comunale ha comportato modifiche su quasi tutti gli articoli del contratto, tabelle di valutazione, note, ci ha voluto più tempo, insomma, non la faccio lunga. Il risultato qual è? Che noi siamo arrivati a definire la preintesa sulla mobilità non avendo ancora cominciato quella sugli ambiti. Per firmare contestualmente significava, come dire, tenere fermo il contratto della mobilità e ritardare. L'amministrazione ci ha pregato di non fare questa scelta perché lei voleva anticipare i tempi rispetto all'anno scorso, e ovviamente è difficile dire di no a questo. Quindi noi abbiamo firmato la preintesa sapendo, e fra di noi ce lo dobbiamo dire, che la preintesa non è il contratto, perché se alla preintesa, premessa l'autorizzazione che ci deve stare, non c'è la firma definitiva, il contratto non esiste. Il contratto esigibile davanti a un giudice, quindi con regole da rispettare, è il contratto firmato in via definitiva avendo avuto il nulla osta di MEF e funzione pubblica, come prevede il 165. Quindi è una situazione diversa, perché alcuni ci dicono: ah, ma l'anno scorso avevamo scritto che facevamo una sequenza entro 30 giorni dalla firma definitiva. L'abbiamo firmato, abbiamo avviato la sequenza, era già giugno-luglio, e poi ce la siamo presa in saccoccia. Perché? Perché intanto la mobilità andava per fatti suoi, potere contrattuale poco, tant'è vero che alla fine l'accordo non c'è stato. E quest'anno è un po' più pesante, perché chi non dovesse raggiungere l'accordo sulla l'incarico d'ambito si assume la responsabilità di non fare neanche il contratto della mobilità. È chiara la differenza? Quindi abbiamo maggiore potere contrattuale rispetto all'anno scorso, e rimane sempre questo problema di fondo. Perché se non si dovesse raggiungere l'accordo sugli ambiti, noi anche in casa CGL dobbiamo decidere che si fa. Perché se non si firma il contratto, che farà l'amministrazione? Beh, io dico che è improbabile che lo applica con ordinanza tutto quello che sta nel contratto. Perché sarebbe un atto unilaterale in difformità di una legge. E l'amministrazione, che già sta in difficoltà a firmare un contratto che disapplica una legge, ma è sempre un contratto legittimo, addirittura autorizzato da MEF e funzione pubblica, perché così dovrà essere, ma la norma diventa il contratto. Ma in assenza del contratto, qual è la norma? Cioè, voi pensate, io non lo penso, ma c'è qualcuno che si illude che potrebbe andare a finire così? Che l'amministrazione, non c'è il contratto, vabbè, ma tanto c'è la preintesa, la mette dentro l'ordinanza e va. Io non credo che possa essere così, perché di fronte a qualunque contestazione un'amministrazione pubblica come si difende? O perché c'è un contratto o perché c'è una legge. Una via di mezzo decisa in casa propria dall'amministrazione con un atto amministrativo, qual è l'ordinanza e la circolare, è un po' complicato. Quindi questo è un passaggio politicamente molto delicato. Altro problemino, per rendervi, non la voglio far troppo lunga, qui c'è scritto accordo, l'abbiamo un po' sottovalutato questo problema. Anche il direttivo nostro ha dato un mandato a firmare un accordo contestuale. Che cos'è un accordo? Noi stiamo chiedendo un contratto. L'amministrazione mica è tanto disponibile a firmare un contratto. Uno, perché dice lì c'è scritto accordo e non contratto. È chiara la differenza tra un CCNI e un accordo? Un accordo è un accordo, è un patto fra galantuomini, l'ho definito prima. Un CCNI è un CCNI, che ha bisogno dei passaggi per essere definitivo, ma diventa esigibile davanti al giudice. Un accordo è un accordo. E questo è un punto nodale. Perché se fai un accordo, poi l'amministrazione l'accordo lo deve applicare. Come lo applica? Con la circolare? Deboluccia, con linee guida più deboli forse della circolare, perché un preside potrebbe dire: ma a me delle linee guida del ministero me ne infischio, perché io ho una legge. Io domani proporrò, se si presenta questo scenario, che sia scritto nell'ordinanza, ammesso che troviamo l'accordo, perché se lo si mette nell'ordinanza, l'ordinanza è voglio dire, che cos'è l'ordinanza? L'ordinanza è intanto la firma al ministro, non è la circolare che firma il capo direttore del personale. E l'ordinanza è molto più prescrittiva nei confronti dell'amministrazione territoriale di quanto possa essere una linea guida o una circolare. Però questo è un problema. Perché abbiamo firmato la preintesa? Per non perdere tempo, ma abbiamo preteso questa, non so se l'avete notata tutti, noi abbiamo pubblicato assieme alla preintesa questa dichiarazione congiunta. Noi abbiamo detto: i sindacati, per non perdere tempo, sottoscrivono la preintesa perché siamo già in ritardo. L'amministrazione, punto 2, si impegna a presentare una proposta e a perseguire, in attuazione dell'accordo del 29 dicembre, un accordo anche sulla chiamata diretta. Quali sono le richieste nostre? Chiudo, poi facciamo un break, penso che... Ve l'elenco. Noi abbiamo detto, ve la vorrei sintetizzare a parole mie, si fanno gli organici, ok? Una scuola ha 100 posti, di questi 100 posti alcuni non sono disponibili per la mobilità, perché sono occupati. I posti occupati sono quelli dei titolari e quelli che hanno l'incarico triennale, perché solo se se ne vanno il posto diventa disponibile, altrimenti quel posto è occupato. Bene. Di questi 100 posti ce ne sono 5, 6, 8 disponibili, vacanti? La scuola che vuole, l'amministrazione dice deve, ma a me non ho problemi se l'amministrazione dica deve, fare che cosa? Può, come dire, indicare nel limite di un elenco nazionale se ci sono particolari requisiti di quell'elenco che dobbiamo definire funzionali all'attuazione di una qualche attività di un progetto, cioè funzionali al TOF. Domanda: chi è che lo ha deliberato il TOF? Il collegio docenti. Se di 100 posti ce ne sono 8 da coprire, faccio un esempio per capirci, è un posto di matematica, posso magari pensare, che ne so, se mi arrivasse un insegnante che mi insegna matematica in lingua straniera, è male? No. E allora non mi basta un insegnante che ha la patente per insegnare matematica, perché quello ce l'hanno tutti, io ho quello il posto da coprire. Potrei chiedere come requisito, e questi sicuramente staranno nell'elenco nazionale, come requisito aggiuntivo auspicabile che io come scuola, ma come scuola intesa come dirigente che propone al collegio, il collegio ragiona e discute e delibera in coerenza con il TOF. E questo è un passaggio, l'unico passaggio che vale, che possiamo introdurre. Se magari oltre alla patente che tutti hanno per insegnare matematica, perché quello è il posto che devo coprire, se io posso chiedere magari, che ne so, il possesso della lingua inglese, il titolo CLIL, che sono titoli, che ne so, 3 anni di insegnamento in una scuola statale all'estero nel settore inglese o anglofono, come si chiama? Non mi ricordo manco il nome. Anglofono. È legittimo che la scuola lo possa fare? Noi diciamo di sì. Quindi la procedura è che ci sono N posti scoperti. Il dirigente, se ha interesse, perché l'amministrazione dice che è obbligato, a me non mi interessa obbligarlo, ma se vuole va in collegio, in una delle sedute del collegio, così come deve rivedere il POF, il PTOF, se i posti che gli dà il provveditorato sono diversi da quelli che lui ha chiesto, perché il PTOF lo deve ridefinire in base ai posti di organico che gli sono stati dati, se in relazione alle esigenze del PTOF ritiene utile indicare alcuni requisiti, quanti, questo è un punto di discussione, noi diciamo 3, massimo 4, l'amministrazione vorrebbe 6, questo sarà oggetto come alla fine di trattativa, ma se una scuola indica 2-3 requisiti, Allora, a queste condizioni che succede? Che il dirigente scolastico può pubblicare un avviso in cui dice sostanzialmente: io ho 8 posti disponibili, previa delibera del collegio richiedo, cioè indico come requisiti auspicabili, desiderati per il posto 1, 2 e 3 per ciascuno di questi 8, indica N requisiti tra l'elenco nazionale. Non so se sto complicando la vita. A queste condizioni può fare l'avviso, fa l'avviso. Il personale che, finita la mobilità, fatta la mobilità, sta sull'ambito, se è interessato a quelle scuole, vede gli avvisi, fa la domanda, e il dirigente cosa fa? Se su quei posti, su tutti, su una parte, riceve delle domande, le valuta in relazione a che cosa? Ai requisiti indicati nell'avviso deliberato dal collegio. Se la scuola ne indica 3 e mi arriva la domanda di una persona che ce l'ha tutti e 3, beh, è chiaro che questa è quella che viene prima degli altri. Non ce n'è nessuna che ce n'ha 3, il massimo una ce n'ha 2? Beh, insomma, chi ce n'ha 3 viene prima di chi ce n'ha 2, viene prima di chi ce n'ha 1, viene prima di chi ce n'ha 0. Noi diciamo, a parità di requisiti, non è che sceglie il preside. Non esistono colloqui, non esiste nessuna valutazione discrezionale, il colloquio non se ne parla neanche. Il dirigente scolastico, come dire, pubblica i requisiti deliberati dal collegio, ma non che si inventa lui, né lui né il collegio, li individua sulla base dell'elenco che noi allegheremo all'accordo. Saranno 10, saranno 15, saranno 20, per esagerare, l'amministrazione ne propone 44, nell'ultima versione siamo scesi a 17 o 18. Beh, bel passo avanti l'ha fatto l'amministrazione. Quello che ci interessa a noi è che non ci sia nessun incarico di tipo organizzativo dato discrezionalmente dai dirigenti, siano tutti titoli e requisiti certificabili, oggettivi e verificabili. Poi non ci impiccheremo se devono essere 12, 13, 15, l'importante è che abbiano queste caratteristiche. La scuola, oltre che la patente che tutti devono avere, ritiene che per il progetto che deve fare, faccio un esempio, deve fare molte attività di recupero. Beh, se mi indica un docente che per almeno 3 anni, faccio questo esempio, poi vediamo se è uno dei requisiti dell'elenco, ha insegnato per 3 anni nell'educazione degli adulti, può essere un requisito che la scuola può chiedere in aggiunta perché magari vuole fare attività di recupero? Può essere, oppure che ha lavorato in progetti a rischio. Ma devono essere esperienze solide, verificabili e documentabili, oltre che autodichiarate dall'interessato. Questo, cioè, a queste condizioni, come dire, sono le richieste, l'elenco che trovate lì, che noi pensiamo la scuola possa fare. Ultima partita, scusa, ti finisco. Che succede con la mobilità? Con la mobilità possono accadere 2 cose. O una parte dei posti sono coperti per trasferimento e quindi il preside che fa? Aggiorna l'avviso, ha detto che c'erano 3 posti disponibili, su uno ci arriva uno trasferito, fa l'avviso e dice: guardate, non sono più 3 ma sono rimasti 2. La parte più delicata qual è invece? Che lui non ha fatto l'avviso perché il posto era coperto e magari un docente esce per trasferimento. Allora qui secondo noi 2 sono le cose: o il dirigente non fa nulla, oppure deve esserci il tempo per ridefinire, sempre con delibera del collegio, un'eventuale integrazione sul posto che non c'era quando sono stati, non era disponibile quando sono stati fatti gli organici, ma si è reso disponibile a seguito della mobilità. Ok? Questa è la proposta che noi abbiamo formalmente unitaria presentata al Ministero. Il Ministero nicchia, abbi pazienza, finisco su 2 o 3 considerazioni. Quali sono i punti più di maggior contrasto? Il primo: che fa il preside se il collegio non delibera? Noi scriviamo che il collegio deve deliberare, come l'adozione dei libri di testo, è un atto obbligatorio, perché deve approvare il TOF, nel TOF ci mette questa aggiunta, non dovrebbe esserci quindi, ma comunque senza delibera il dirigente non può procedere. L'amministrazione invece vorrebbe che il dirigente comunque, in assenza di delibera di un collegio regolarmente convocato, lui procede lo stesso. Questo è un punto di contrasto. Il secondo: il Ministero insiste a dire no delibera ma parere. noi abbiamo detto il parere, è come quello del CSP, che l'amministrazione, il ministro ci fa quello che gli pare, figuriamoci un dirigente con il parere del collegio docenti. Questo è l'altro punto di contrasto. Il terzo è ovviamente la scelta dei requisiti. L'amministrazione ce ne volebbe infilare alcuni che secondo noi non ci devono stare. Faccio un esempio. Un docente membro del comitato di valutazione. Mi dite che c'entra con il TOF, con l'attività didattica, il fatto che uno l'anno passato è stato membro del comitato di valutazione ai fini del bonus? Questa è una delle proposte che per noi sono irricevibili. Oppure il collaboratore del dirigente scolastico, è chiaro che non ci deve stare. Ecco, quindi voglio dire, il contrasto è sul parere del collegio, che per noi deve essere delibera e deve essere vincolante, per l'amministrazione invece vorrebbe solo un parere. Il dirigente che possa procedere, anche se il collegio, loro dicono, boicotta le proposte del dirigente, un termine che a noi non piace, un collegio è convocato regolarmente, bisogna deliberare il TOF, sì, all'interno della delibera del TOF ci metti questa roba. Qual è il ruolo del dirigente? Di fare la proposta, il collegio lo presiede lui, Il dirigente ha la legittimità, il diritto di fare le proposte in collegio. Dopodiché si discute, il collegio che fa? Non è che si rifiuta di deliberare, la può cambiare, può dire no, questo requisito non va bene, secondo noi a maggioranza è meglio quest'altro. Cioè questo è il ruolo che noi riteniamo il collegio debba avere. L'altro è sull'elenco e sul numero dell'avviso. Per noi è folle pretendere 6, perché che vuol dire 6? Vuol dire che ci metto tutto e il contrario di tutto. Vuol dire che non ho un'idea di cosa far fare a questa persona. Non posso indicare 6 requisiti magari diversi fra loro, perché che vuol dire? Non c'è coerenza, no? Noi vorremmo scrivere fino a un massimo di 3, ma me ne può indicare anche uno solo. Se gli interessa la laurea in lingue per un insegnante di matematica, chiedesse la laurea in lingue, che è un dato oggettivo. Dopodiché me ne arrivano 3 che hanno la laurea in lingua inglese? Vuol dire che tutte e 3 rispondono ai requisiti, prenderò quello che c'è il punteggio più alto, che ha scelto la scuola mia prima degli altri. Non ci pare, invece loro sta roba sono un po' allergici. Scusa, vi ho interrotto, poi facciamo una pausa. Una domanda, vedi, rispetto alle quote di flessibilità oraria ed autonomia, quelle rimangono, cioè io nel TOF come collegio docenti. Questo è il tema da circolare sugli organici, ma è così, quella rimane. Oppure torniamo alle domande, come vogliamo proseguire? Ditelo voi. No, allora, siccome abbiamo tempi contingentati e il pranzo è pronto fra un quarto d'ora, quindi giusto il tempo di un'altra domanda. Intanto abbiamo provveduto ad aumentare il numero, perché per fortuna abbiamo molti più partecipanti come sempre rispetto ai prenotati, quindi ci sarà spazio per tutti. Dopo l'altra domanda, quindi chiudiamo e scendiamo al piano terra nella hall sulla destra. Ci abbiamo anche un paio d'ore di pomeriggio per domande varie, non è che finiamo. Allora, diciamola così, il dirigente verifica il possesso o meno dei requisiti che lui ha indicato nell'avviso, e i requisiti non se li inventa lui nel collegio docenti, ma li individua all'interno dell'elenco allegato all'accordo o al contratto.